quella associazione culturale che viene finanziata dai Benetton, ma qualsiasi collaborazione. Sostanzialmente i Benetton licenziano Toscani dopo la frase sul ponte. Gli ascoltatori l'hanno presa in questo modo. Ve ne faccio sentire alcuni, vai. Benetton ha dato un calcio in culo a Toscani. Godo come un riccio. Godo come un riccio. Stavolta buona e ci togliamo Toscani dai coglioni. Dai che finalmente l'ha detta la stronzata. Dai che l'abbiamo beccata a livello alcolico giusto, quell'avvinazzato di merda. Sì, come godo. Toscani fuori dai coglioni. Come godo. Toscani ha fatto la cagata stavolta. Più grande del solito. Toscani, conviene che metti in mano al libretto degli assegni. Poi la cosa bella è che ieri non rispondevi manco. Dove è finita tutta quella prosopopea del cazzo che c'avevi? Toscani ha fatto la cagata stavolta. Più grande del solito. Toscani, conviene che metti in mano al libretto degli assegni. Poi la cosa bella è che ieri non rispondevi manco. Dove è finita tutta quella... Allora io vi dico solo una cosa su questa vicenda, ragazzi. Cioè solo una cosa. Cioè proprio lapidaria. Allora, c'è una grandissima ipocrisia. Ovviamente un capo di azienda come Benetton fa quello che vuole per proteggere la sua immagine, no? C'è una frase del genere e si para il culo e caccia Benetton. Ma non solo la sua immagine. E caccia Benetton. La sua immagine, i processi, l'immagine che viene può venire dai processi. C'entra i 43 morti soprattutto. Ragazzi, quelli non fanno. I morti, non la sua immagine. La sua immagine sì, anche, vabbè, quello però. Solo quello. I morti. Solo quello. Quella è la questione. Solo quello però, la propria immagine rispetto a quello che ha detto Benetton. È un dramma. Però ragazzi, questo funziona solamente quando alla fine si vanno a toccare i propri interessi. Perché di frasi eclatanti, di frasi grosse, disparate, secondo me giustamente, perché poi c'è la libertà di espressione, Toscani ne ha fatte a bizzeffe, ne ha dette a bizzeffe in questi anni. Scusate, è meno grave dire che la Meloni, come sentiremo adesso, che la Meloni è una ritardata? Che la Meloni è una ritardata? È meno grave. E allora perché non si sono preoccupati della loro immagine i signori Benetton quando Toscani se ne usciva sulla Meloni? Perché forse non era direttamente collegato ai 43 morti, non c'è un po' di dubbio, cioè non era il loro... No, era collegata ai loro interessi diretti. No, interessi diretti, al fatto che lui... E dai, su, perché comunque ci sono i loro interessi. Giustamente, io non dico. Interessi, cioè io, lui io non dico, ha io non un posso contratto dire di collaborazione. Ha detto dico, una cosa terribile e ha pagato per quello che ha detto. Ma ha fatto benissimo. Questa è la cronaca. Noi tu, avremmo, hanno... tu avresti fatto la stessa cosa. Io se non fossi, lo so. Se sono non ti saresti tenuto in azienda uno che dice delle puttanate enormi. Ma in le più aveva di 43 dette, morti. Volendo, le aveva già dette. Perché non sono intervenuto? Ma non era direttamente correlabile a una vicenda come i 43 morti. Erano cose altamente gravi. No, ma interessi. Per l'immagine dei Benetton è meno grave dire che Meloni ma è una ritardata. La Meloni giustamente l'aveva attaccato. Sentiamo. Giustamente la Meloni, io parlo dei Benetton. Ma la Meloni che fa quella, ti sta sui coglioni pure la Meloni. Ma lei proprio poveretta, lei è ritardata anche lei. La Meloni no, ritardata proprio, no, ma è politicamente brutta e volgare. Brutta e volgare, mi dà fastidio la giudizio sua, politico, la sua estetica, appunto, il suo giudizio. Ma perché, che c'ha politico, esteticamente? Non ho capito che c'ha. È fastidiosa. Il Vaticano, un grande club omosex, che è una cosa straordinaria, cioè un'uscita straordinaria. Ma perché i Benetton non si sono messi in moto, non si sono, come dire, agitati quando Toscani se ne usciva con una frase di questo tipo? Beh, però è diverso, nei confronti di tutti i cattolici, magari, no? Qualcuno offende milioni di cattolici, ma infatti ha fatto bene a quell'anno, se uno si sente offeso. Ma io non lo so, certo, se hanno fatto bene, sto dicendo che i Benetton non hanno mosso un ciglio, non hanno fatto nulla, non hanno battuto il ciglio. 43 morti, sarà una roba diversa, su, no? Certo che è diversa, ma intanto per l'immagine c'è anche questo, però in quel caso nessuno si è mosso. Tutti uomini, sì. Le suorine di fianco, le serve, sì. Le donne, ma voi essere. Donne non vi incazzate, ma scusate, voi donne non vi arrabbiate di questo club di maschi e basta. Ma nessuno le obbliga. È anticostituzionale, ragazze, svegliatevi invece di fare le femministe. Ma se uno sceglie, andate in chiesa a lamentarvi. Cioè le donne si dovrebbero arrabbiare. Non avete lo stesso parità di diritti con questi qua del Vaticano. Cioè che è un club solo di maschi. Ma è logico, è la più grande invenzione omosessuale che ho mai visto. Poi ne disse di tutti i colori anche sul crocefisso, no? E i veneti ubriaconi, allora? I veneti ubriaconi, nemmeno in quel caso ci fu un intervento da parte magari, no, della casa madre. E quello avrebbe potuto toccare gli interessi, della... però non è accaduto, dai, perché su. I Benetton sono veneti, dai. Ma non si sono arrabbiati per quello, quindi che vuol dire? Vuol dire che i 43 morti è veramente grave. senti, quando parla il sindaco di Padova, guarda, di fonici, guarda, quel dialetto meraviglioso, che è il dialetto podovano, anch'io ho difficoltà praticamente da ubriachi, un accento da alcolizzati, no dai, su, no, non si può dire, cioè tu dici l'accento veneto è da ubriachi, sì, da ombretta tutto il tempo, l'ombra, bevono le ombre, no, cioè un popolo, tu dici è un popolo di ubriaconi alla fine, alcolizzati atavicamente, non loro personalmente, ma nonni, padri, madri, no. Cronici, alcolizzati, cronici, dai. Guarda Parenzo, non è un po'... Ma scusa, ma tu veramente, vuoi farti emanare una fatua dal Veneto, cioè vuoi che ti impediscono di entrare? Gottardo, ti sento silenzioso, che pensi? Sì, è diverso, però si capisce che stava scherzando. È un giorno triste, è un giorno triste per chiunque come me crede nella massima libertà verbale. E credo che Toscani sia stato vittima di uno scivolone e vittima anche della necessità poi del suo committente di trattarlo come un agnello sacrificale. Cioè, con secondo il sangue te, mediatico di Toscani stanno lavando l'immagine del gruppo Benetton. Ma figurati. Cioè, secondo te hanno sacrificato Toscani per pulirci un po' l'immagine? Sì. Ma era troppo grave, grasso, 43 morti, dai. Ma di fronte a 43 morti non c'è battuta poi, o scherzo. Poi mi ripugna sentire quattro coglioni in apertura che usano la loro mediocrità per gioire della caduta verbale questo grave, perché questo non lo nego, di uno dei migliori intellettuali di questo paese. È una delle persone più conosciute all'estero. Se tu parli di comunicazione all'estero, di chi parlano dell'Italia? Rocco Siffredi, di Oliviero Toscani. Rocco Siffredi, sì, ma i 43 piano, morti Renzo, non si scherza, non si dicono stronzate come quelle che ti citano Parenzo, ti citano Cruciani, no, ma hanno fatto benissimo a mandarlo via nel merito, perché è insostenibile. Ma che benissimo, ma quella è una cosa aziendale, è insostenibile per ottenere. Se i Benetton difendessero i principi, avrebbero dovuto mandarlo via prima. Ha ragione, come si dice in Veneto, la battuta che ha fatto sui veneti, no, ma scusa, bisogna saper distinguere, però la battuta che ha fatto sui veneti. No, no, ma esuliamo dall'episodio. Io sono veneto, mica mi sono offeso. È una battuta. No, però Gottardo, che sta dicendo una cosa interessante. Se allora, che... i Benetton non spaccino che stanno difendendo il principio o l'onore delle vittime. Giusto, io sono quello d'accordo. Lo difendono, certo, risarcendo le vittime. Quello, ma no, lo difendono, ma quello risarcendo lo dovranno le fare vittime in sede giudiziaria, qua l'hanno già fatto in sede altra. Difendendo i loro soldi, come fanno i veneti. Ma quello i veneti, lo soldi, il fatto spesso... che certe cose non si possono dire, certo, no, i loro soldi. Certe cose che danneggiano l'azienda non si possono l'azienda, dire. Quelle che non ci sono delle cose sulle quali non si può dire. Scherzare, questo è ma il allora punto. Perché non li hanno mandati via? Perché non hanno mandato via? Sulla battuta sui veneti è una stupidaggine, ma non offende. Quello è un'altra cosa molto grave. Quella sicuramente è un altro impatto. Quando offendeva i preti? Quando offendevi i preti, perché andava bene? Perché hanno valutato poi... che offendere milioni di cattolici o la Chiesa, ecco, non fosse forse così. Ma è possibile, Parenzo, che tu sei sempre l'avvocato difensore di quelli potenti con i soldi e non difendi mai uno in difficoltà? Va bene, lo scherzo. Perché tu difendi sempre i forti e mai i deboli? Fermi tutti, fermi tutti. Non ho preso mai, perché sempre dalla parte giusta. No, ma... Porro, poi dichiarisci con Gottardo, ma non ho mai preso una lira del Benetton, questo lo so benissimo, che c'entra, adesso non mettiamo in mezzo altre cazzate, ragazzi, la cosa non riguarda noi che siamo liberi di dire quello che vogliamo, dai, non diciamo cazzate, qui nessuno ha preso un euro da Benetton per fortuna, manco uno, né io, né Gottardo, né Parenzo, questo sia chiaro, per cui non abbiamo nulla da difendere, Parenzo ne fa una questione di principio, Gottardo una questione di principio, io pure, abbiamo opinioni diverse, però nessuno di noi qui è prezzolato, sia chiaro, porro, vai, porro. E le dichiarazioni che ha fatto Toscani su tante persone che non la pensano come lui, come il sottoscritto, io le considero delle dichiarazioni, quelle di Toscani, da parte di una persona che sta invecchiando molto male e che questo suo come possiamo dire, questa sua follia etilica la straborda, ma gli do quel giusto peso che è, cioè un vecchio rincoglionito che dice queste robe qua. Non penso che ci sia un odio generalizzato, non penso che Toscani voglia vedere le persone che muoiono sulle autostrade e che calano i ponti. Io mi sa veramente sulle balle, ma quando lui dice che il ponte Morandi chi se ne frega, non penso che quella roba lì implichi che lui se ne frega davvero dei morti, chiaro? Non lo penso, nonostante lui abbia detto qualsiasi cosa di me, non penso che ci sia necessità di igiene nelle parole di Toscani è quella roba là. Questa è bellissima ed è bellissimo. Aspetta, senti questa così roba. Così ha un senso. Difendo fino alla morte il diritto di Toscani di dire queste stupidaggini, lo qualificano, ma non posso pensare, e lo trovo ridicolo, ma non posso pensare che ci sia l'igiene stabilita dalla Lamorgese anche sulle parole di Toscane. La Zanzara. Zanzarosi, giornata difficile, chiamate all'824 0024 o whatsappate il 393 7171 701. Scoprirete che potrebbe anche andare peggio. Allora, volevo rendervi edotti di una cosa. Io e mio padre lavoriamo insieme, anche lui è un grandissimo ascoltatore della Zanzara. In pratica, quando litighiamo e scazziamo di brutto, quando raggiunge l'apice proprio dell'incazzatura, che deve insultarmi proprio pesantemente, ecco, lui usa un sei come Parenzo. Parenzo, sei diventato un insulto, renditi conto. Ciao, stronzi. Oh Giuseppe, ho appena ascoltato una roba che hai fatto ascoltare su Toscani, ma io non ci vedo nulla di così negativo. Quando lui dice a chi vuoi che interessi che crolli un ponte, si riferisce ai Benetton stesso, che non è che hanno fatto in modo che crollasse un ponte perché gli interessava che crollasse il ponte. Questo voleva dire, mica è una roba offensiva nei confronti delle vittime, ma che roba è? Ma perché vi inventate le puttanate? Ora non mi interessa difendere Toscane, che chi lo conosce, chi se ne frega, ma ha detto tutt'altra cosa. Amico mio, nemmeno lui si giustifica così. Oggi ha fatto un'intervista, non mi ricordo dove, credo su Repubblica, in cui ha detto ho sbagliato, sì, e chiedo scusi ai parenti delle vittime. Nemmeno lui cerca scappatoie, poi dice che il contesto in cui l'ha detto era diverso, però la frase è abbastanza chiara, noi l'abbiamo interpretata in mille modi. Lui, cioè, la cosa di cui stiamo discutendo oggi è il licenziamento in tronco di Toscani da parte dei Benetton, che io trovo giusto dal punto di vista aziendale, ma siccome io non faccio il difensore dell'azienda, non me ne frega niente, dico che è ipocrita, perché Toscani si è caratterizzato in questi anni nello sparare grosse, comunque nel dire quello che pensa, ma non secondo è scissa, me però, nel la dire sua quello che pensa da quello che rappresenta l'azienda, però. Ho capito, ragazzi, però ripeto, è meno grave dire che c'è, che il, cioè, il crocifisso è un cadaverino libero, è ma meno no, grave, forse è più grave, no, ripeto, una mattana sui morti, no. E allora il punto è che quelli lo licenziano, come dice Gottardo, perché ci sono gli sgay di mezzo. Se non ci fossero gli sgay, come cazzo si dice in Veneto? Sgay. Se non ci fossero gli sgay di mezzo, non lo licenzierebbero. Dai, su, ragazzi. Tra le altre cose, è un crimine contro la cultura mandare via Toscani. Vabbè, uno che ha così questa, tanto dai, da insegnare, uno che ha così tanto da insegnare a fabbrica, lo mandi via. Non perché non può più parlare. Non è che non può più parlare. Però, no, però inizia, non può più insegnare lì. Inizia non può più insegnare ai giovani. Non ci sarebbe mai una sanzione. Purtroppo le sanzioni le paghiamo tutti. Ma perché lo mandi via? Perché l'errore purtroppo si paga, purtroppo. Allora, per posso fortuna dirmi una cosa? C'è un sindaco a Pinerolo, tanto per farvi un esempio, era prevista una mostra di Toscani che la vuole annullare. Cioè, qui ormai siamo, purtroppo, siamo alla, come dire, al precipizio, alla, alla valanga. Questa, ragazzi, è la della comunicazione, però. Ho capito, però quando diceva che lui dovrebbe conoscerla, sì, siccome sì, lui l'ha raccontata e ne è stato un protagonista, della dovrebbe capire quali, sì, quali sono gli effetti, allora, di queste slavine. Allora, c'è un caso che mi viene, c'è un caso che non c'entra niente con Toscani, su cui mi viene di dare ragione al nostro amato Donato da Varese. La sparo grossa, ovviamente, no? No, sull'Islam. In Francia, una ragazzina di 16 anni, una liceale di 16 anni, ha detto delle cose piuttosto forti sulla, anzi, pesantissime sull'Islam. In francese, poi ve le traduco sul momento, ma insomma è abbastanza chiaro. Dice che il Corano è una religione di merda, così dice, è una religione di merda, sotto scorta, protezione ai massimi livelli. Macron che è dovuto intervenire, eccetera. Cioè, se tu attacchi, come ha fatto Toscani, magari il Vaticano o la religione cattolica, non accade questo. Se tu invece dici a 16 anni, una tale che si chiama Mila su Instagram o su TikTok, non so quale cazzo di social, chat, che sì, il Corano è una religione di merda e c'è solo della merda lì dentro, succede che ti devi proteggere dai matti. Je ne suis pas gênée pour dire ce que j'en pensais. Je déteste la religion. Le Coran est une religion de haine. Il n'y a que de la haine là-dedans. L'islam, c'est de la merde. Dice de haine è l'odio, no? De haine, c'è solo dell'odio e della merda. C'est ce que j'en pense, moi. Je dis ce que je pense, putain. Je ne suis pas raciste, mais pas du tout. On ne peut pas être raciste une religion. Tout simplement, il y a des gens qui peuvent penser ça, mais vous êtes con. Qu'est-ce que vous êtes con, putain de merde. Una serie puttana merda, ci sono una serie di parolacce. Voi siete dei coglioni, non sono razzista, il problema è della religione, siete dei coglioni, io dico solo quello che penso. Il tutto nasce, vabbè, da una storia lunga, da uno sfogo che lei comunque è una risposta a una persona, questa, comunque sì, gli effetti, vabbè, sono la sostanza è questa, gli effetti sono devastanti. Ho capito, ma questo ti fa capire la differenza che c'è, no? Se tu metti in mezzo l'Islam, se tu, qualcuno diceva perché Fiorello invece di presentarsi vestito con per me fa benissimo, sto dicendo, qualcuno diceva, se fosse venuto da imam non sarebbe accaduto nulla, sarebbe accaduto nulla. Pigliando per il culo l'Islam, No, una volta è successo, ma lì non ha preso in giro. Ma però no, lì non ha preso in giro il prete. Beh, ma anche cioè, se come ricordo, diverso. Io l'ho visto. Ricordo lo sketch. Ricordo a Davide che non se lo ricorda. Il trio Lopez, Marchesini, Sovenghi prese una fatwa perché fecero così la canzonatura della suocera di Comeni, se non sbaglio. Ma lì però fu Gennaro da Caserta, vai ragazzi. Gennaro da Caserta, vai, dimmi. Buonasera. Senti, Cruciano, non mi attaccare perché ti devo dire una cosa molto importante. Apri bene le orecchie. Lunedì hai aperto la trasmissione, forse questo è pure fuori tema, no? Dicendo che è stata propaganda il fatto che tre precari lì a Roma, lo Spallanzani, hanno isolato il virus. Non ho detto questo, ma che cazzo significa mandare una figlia? Io ho una figlia che sta studiando da 20 anni, si è laureata ed è precaria e non la pagano. Ho detto che si faceva retorica sul precariato, precariato. Tu sei una propaganda che prendi 15.000 euro al mese. No, anche di più. Di merda che sei, non te la proprio permettere. Ma che vuoi, Gennaro? Cosa vuoi? Non ho capito. No, ti dico una cosa, io cosa faccio vuoi? Il camionista, no? Faccio la tratta da Napoli-Milano. Se ti incontro su qualche area di servizio, ti devo spaccare la faccia. C'è gente che vuole spaccare la faccia di continuo a tutti. No, ti ricordi che hai dichiarato da poco? Ma io col cazzo che faccio l'autostrada, limite prendo i treni. Denuncia, anche di cretino, imbecille, denuncia. Ma perché no, ma Gennaro, non nemmeno. Gennaro, venga in via Monterosa, con il camion, se no taccia, perché io mi sono rotto i coglioni di questi che minacciano e basta. Lei ha un camion. E lo sfido allora, personalmente. Gennaro, le do un'informazione. Le do un'informazione, Gennaro. Non riguarda te la cosa. Gennaro, però le do un'informazione. Lei è di Caserta, ha un grande cuore come i napoletani. Allora, verso le 3:30 di solito Cruciani attraversa via Monte Rosa, no? Di pomeriggio. Lo aspetti al semaforo, lo metta sotto. L'evoluzione del programma è mina, quindi, l'evoluzione. Non con una testata, con un cazzottone, può darsi che me ne dia pure lui a me, però. No, ma io non ti ho, io no, sono per il massimo della violenza verbale, per non smettere di dire che i precari hanno fatto pubblicità per isolare il virus. Non ho detto questo. Imbecille, non l'ho detto, ignorante, non l'ho detto. Che tu non sai i sacrifici che testa vuota. Una scuola. Testa vuota. Hai le pigne in testa, Gennaro, hai le pigne in testa. Tu non sai nemmeno i sacrifici. Che ti credi che tutti quanti prendono 15.000 euro? Ne prendo di più. Però di lui 15.000, si sente preso non in giro, prendo. Ha ragione l'ascoltatore. E tu ti permetteri di offendere dei ragazzi che si fanno il culo? Ma chi ha offeso? Guarda quell'altro che gli dà ragione, un cazzottone in faccia, non te lo toglie nessuno, giustamente sei un coraggio, finalmente un po' di violenza vera tra Milano e Napoli, devi lavorare su e giù dentro la radio e così e con la senza avere problemi. Che ne sai come si fa ad arrivare a fine mese? Quando la gente si arrabbia, guarda, finita, c'ha ragione questo. Gennaro, scusa, ma a parte che è sbagliato, un cretino, ma io non l'ho detto. La Confindustria si deve mettere a dire che stanno facendo pubblicità intorno ho detto che hanno fatto. Ci hanno fatto due coglioni così su questa cosa qui. Due coglioni, imbecille. Sei senza coglioni, non ce li hai. Non nominare cose che tu non hai. 1500 euro i ricercatori prendono. Ci hanno fatto due coglioni così su questa cosa qui di questi qua precari. È una notizia, su una no? ricerca che tratto non siamo manco arrivati per primi, che va benissimo, per carità. Ci hanno fatto due palle, no, perché c'erano anche altri paesi che avevano isolato all'Australia il virus, eccetera. Ma che c'è? Parliamo dell'Italia, sono stati ma ci hanno fatto due palle così i ricercatori giorni. precari, ma chi se ne frega, sono bravissimi, 1500 euro degli scienziati. Gennaro, che vuoi, scusami, e delle famiglie che fanno i sacrifici per mandare i figli a studiare. Bravo, tu non ti dovevi proprio permettere di dire quello che hai detto. Ma vattene a far culo, che devi fare audience, certo. Ma devi, devi avere studiare, il coraggio di venire qua scuole, sotto, certo, con il tuo camion del cazzo. Vieni qua sotto, wood, pezzo di merda. Vieni qua sotto col tuo camion, sì, invece di fare il coso. Vieni qua, finalmente. Devi essere uomo, scendi. No, io scendo, no, io ti affronto, ti affronto con le parole, non con le, non con le mani, come vuoi fare tu, perché sei un fascista violento. Fermo là. Non fermo, sono solo fascista. Stai zitto, io va, sono il più democratico del mondo. Sei monogamo, sei monogamo, che ancora peggio. Sei monogamo, che ancora peggio. Tu, foto, tu federasta di me, tu sei un federasta. Oh, senti, il camion. Il segnale orario vi è offerto da... È ora di riscoprire il fuoco. Progetto Fuoco, 19-22 febbraio, Verona Fiere. Attenzione! Con Uliveto vinci migliaia di buoni spesa da 50 euro. Uliveto è una fonte di calcio altamente assimilabile. Acquista Uliveto, troverai una cartolina con tante preziose informazioni. Cancella i quattro amici della salute delle ossa e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 50 euro. La spesa te la offre Uliveto. Per migliorare la tua infrastruttura IT, progettiamo insieme la soluzione Cloud Enterprise perfetta per le tue esigenze. Perché con Aruba Enterprise il cloud è a forma d'impresa. Scopri le soluzioni IT di Aruba Enterprise. Per te, che non vuoi fermarti mai, muoviti a emissioni zero. Nasce il nuovo SUV Peugeot 2008, anche 100% elettrico e con Peugeot e Cockpit 3D. Scopri la nuova dimensione della driving experience, anche domenica. Peugeot. Da MediaWorld, solo fino al 12 febbraio, trovi i mega sconti. Come smartphone Samsung Galaxy A40 con sconto del 30% a soli 181 euro. E se non ti basta, in negozi online, tantissimi prodotti in offerta. MediaWorld, fatto apposta per me. BNL, gruppo BNP Paribas per la sostenibilità. Cosa si intende per investimenti socialmente responsabili? Una finanza sostenibile è possibile e le banche sono chiamate a un ruolo chiave nell'accelerare i cambiamenti verso un'economia più inclusiva e responsabile. Una risposta concreta alle sfide della società di oggi. Un vantaggio per il patrimonio personale e per l'economia nel suo insieme. È questo che BNL BNP Paribas chiama Positive Banking. Vai su radio24.it, entra in BNL per la sostenibilità e scopri tutti gli approfondimenti. La Zanzara. C'è un gentile tecnico, il mitico Rudy, che è qui, qui accanto a me, che mi sta aggiustando il computer qui accanto, che non funziona. Non funziona un cazzo, amico mio, ma, un cazzo. Ma passalo in onda. Ma che passi in onda, Rudy? Che cos'è che non va in questo computer? Dimmi, cos'è che non va, Rudy? Lo capiamo, Giuseppe. Adesso stai cercando di capire questo computer. No, questo computer. Non diciamo le parolacce, io non le dico. Tu non le dici, le dico io, non ti preoccupare. Perché non funziona mai una mazza? Perché? Perché, amico mio, perché tutto pieno di anelli qui, pieno di anelli. Beh, grande... Altro che grande cacciatore anche lui, signor Rudy, altro che Sgarbi, chiamatemi Sgarbi, va, tanto TG3, poi Sgarbi, grande cacciatore pure lui, numero uno, Parenzo, tu non lo conosci, Rudy, beh, siamo al top, siamo al top, donne che cascano ai suoi piedi! Pronto? Toscani? Sì. Sta attento, bello. Mi sono Mona Veneta e sono qua con Bicere de Terra Crua de Breganze. Coglion! Che se lo casarebbe le tonte parisi, le fotografie, i funerari e i matrimoni. Imbecille che non ci sia altro. Passa qua per Vicenza che vengo a trovarti, stupido de una merda. Eccoci. Uè, Crucio, puoi capire che mi è successo? Sono stato tamponato qui alla Garbatella. Io sono sceso per vedere quello che era successo. Ho allargato le braccia. Non avevo ancora visto manco chi c'era dentro l'altra macchina. Scende questa, capelli tutti corti, bionda, col cappello all'indietro, lesbica proprio persa. Cioè proprio lesbica persa. È scesa con l'occhio fuori, a pezzo di merda, a pezzo di testa di cazzo, te taglia la gola. Mi ha detto le peggio cose, mi ha detto, Cruciano. Io l'unica cosa che mi sono permesso di dire, io ho detto, oh, a lesbietta, datte una carmata, perché cioè non mi vai rompi i coglioni perché te ce l'hai. Quando io ho detto così ha cominciato a sompare come in grillo, è impazzita. C'era la nonna, la zia che la tenevano ferma, una scena terribile. Allora ragazzi, la voce che avete sentito all'inizio nel mio, in un mio colloquio qui in studio con un tecnico risale a 5 anni fa, perché proprio 5 anni fa veniva a mancare un grandissimo personaggio di questa radio, Rudy, voi avete sentito Rudy, Rudy che era Fabio Cantadori, lo abbraccio ovunque tu sia, caro Fabio. 5 anni fa, sembra, passata un, sembra passato un secolo, non me lo ricordavo, me l'ha ricordato il signor La Corte, il signor La Corte. Allora abbiamo Giorgio, che però è Giorgio Robbiano se non sbaglio, che è il parente di alcune vittime del ponte Morandi. Quante persone hai perso sul ponte in quella tragica giornata? Giorgio, buonasera. Ciao, buonasera. Io ne ho perse 3 persone: mio fratello, sua moglie e il bambino di 8 anni, il loro figlio di 8 anni. Allora, tuo fratello, la moglie di tuo fratello e il loro figlio di 8 anni. Il loro figlio di 8 anni. Il piccolo dei morti. Immagino che il morto, diciamo, più giovane, diciamo, quello più piccolo della, di tutta la di quei 43. Sì. La cosa che volevo sapere da te, e anzi, il motivo per cui hai chiamato, immagino, è per dire qualche cosa su questa vicenda di Oliviero Toscani. Guarda, Toscani ha libertà di parola, come diceva Gottardo, può dire quello che vuole, continuare a dire, ma queste parole, queste, le sue parole non hanno offeso, hanno ferito ancora di più quello che la nostra ferita, l'hanno aperta ancora di più. Perché vorrei ricordare solo due cose, due tre cosine, veloce, veloce. A noi importate del ponte caduto, a noi ci importa tutt'oggi del ponte caduto, a me è importato quando non sapevo che fine avessero fatto i miei parenti, quando non riuscivamo a metterci in contatto con loro. A noi è importato del ponte caduto, quando ho dovuto riconoscere il corpo di un bambino di 8 anni. A noi è importato sapere di un ponte caduto, quando ho dovuto dire a un padre e una madre che il loro figlio e il loro nipote era morto. Quindi le sue parole offendono, ma feriscono. Cioè tu stai dicendo, tu l'hai sentite quelle parole bene, le hai risentite? L'abbiamo... Le sentite, possono essere interpretate in mille modi, quello che vogliamo. Una persona deve essere in grado di capire quando deve stare zitto. Esatto. E certe cose non devono essere dette. Cioè, anche se le pensa, io sono convinto che lui lo pensa, lui pensa che chi se ne frega di un ponte. Come dici tu, Giuseppe, tutte le volte. Quello forse bisogna avere la coerenza, che quando qualcuno dice una cosa deve avere la coerenza di continuare a dire quello che ha detto. Cioè, secondo te lui pensa, cioè se ne frega, in fin dei conti se ne frega del... Giuseppe, quante volte tu l'hai detto quando muore un bambino degli immigrati che ci preoccupiamo sul momento e poi... Sì, io però ho detto un'altra cosa, cioè non direi mai chi se ne frega a chi interessa del ponte caduto. È questo che dico, che alla fine il pensiero si gira dall'altra parte, non pensi più a niente. È drammaticamente così. Però io voglio capire una cosa, secondo te le pensa per davvero? Però lei, voglio chiedere questo al nostro amico, perché oggi effettivamente a rileggere quello che le ultime parole di Toscani, che ce le ho qua davanti, in cui Toscani dice: ho detto quelle parole infelici, ma la mia frase è stata estrapolata. Volevo solo dire, attenzione, che Fabbrica è un centro culturale che non ha nulla a che fare con autostrade e che non stavamo discutendo di quello del ponte Morandi che è cascato. Il ponte non c'entra nulla con le nostre attività. Quindi Toscani si è giustificato in questo modo. Dopodiché io non voglio criticare nessuna estrapolazione, io critico le sue parole a prescindere, assolutamente. Però infatti è così. Luca, secondo te tu accetti le sue scuse o non è il caso? Non mi interessa, siccome lui si è scusato, ma io direi lo stesso. Ma chi se ne frega, lui si è scusato, ma chi se ne frega. Voglio solamente fargli sapere, perché so che ascolta questa trasmissione, che le sue parole feriscono, a prescindere che siano state estrapolate, dette, non dette. Però la frase è chiara, dici tu, la frase è la chiara. Frase è chiara. E secondo me è il suo pensiero. Sì, dunque uno dovrebbe anche avere il coraggio di dire: questo è il mio pensiero. Bravo. Secondo me lo dici tutte le volte, ma io infatti hai ragione. Hai il tuo pensiero, devi essere coerente. Ma non hai ragione. Ma lui dice, le critica poi queste parole, ovviamente per quello che è successo, e si sente ferito. Però è addirittura peggio se uno poi cerca di... Sì. Senti, ma tu, voi avete intenzione, che ne so, di querelare Toscani, di portarlo in tribunale, no, cose di questo tipo? No, non ha senso, non ne vale la pena. No, qualcuno oggi lo pensava, no? Cioè, e sei d'accordo sul fatto che Benetton l'abbiano licenziato, non te ne frega niente? È un suo problema, non è un mio problema. Tu pensi come Gottardo, come Gottardo che sia stata anche una mossa di Benetton un po' per pulirsi la coscienza da questo, che, da quello che è successo, comunque perché ci sono di mezzo gli sgay, i soldi eccetera, cioè trovi ipocrita questa cosa rispetto ad altre uscite di Toscani? Probabilmente sì, Toscani la spara sempre più grossa per vedere quanto ce l'ha lungo, quindi non ha un problema su questo, sulle sue parole, dice continuamente ogni giorno. Benetton ha preso le distanze, probabilmente non voleva mischiarsi. A proposito dei Benetton, Autostrade o i Benetton vi hanno mai cercati per proporvi un che cosa? Non avrà mai il valore delle vittime della strage, ma vi hanno mai cercati per proporvi un risarcimento? Beh, queste sono situazioni giudiziarie. Non c'entra niente. Volevo chiedere a Maurizio una cosa, però, che è la cosa più interessante. Lui mi ha detto già una cosa: di fronte alle scuse di Toscani di oggi, tu dici non me ne frega niente, cioè non le rispedisci un po' al mittente queste scuse. Ma sì, non me ne faccio nulla delle sue scuse. Non me ne faccio nulla. Le parole le ha dette. Si è ferito, ha ferito me, ma ha ferito anche tante altre persone. Non, per le sue scuse non me ne faccio niente. E ti voglio far ripetere. Non mi cambia la giornata. No, certo. La giornata me l'ha cambiata quando ho sentito le sue parole. E invece sulla questione dei Benetton, anche lì dici sono affari loro, i loro rapporti. Cioè, no, trovi giusto il licenziamento da tutta dalla collaborazione che aveva con i Benetton, oppure anche di questa cosa non te ne frega nulla? Sinceramente, non me ne frega nulla. Problemi loro. Ciao, un abbraccio. Ciao. Arrivederci. Ciao. Franco da Pescara, vai Franco, vai. Ciao, buonasera. Dimmi. Guarda, un paio di cose. Prima cosa per quanto riguarda Toscani. Speriamo che sia la volta buona, che se ne vada via fuori dai coglioni. In che senso? Perché rompe sempre il cazzo. Ti ricordi un ma po' che di c'entra tempo che se ne vada dai coglioni? Giusto che uno paghi, non che vada fuori dai coglioni. Che vuol dire vada fuori dai coglioni? Mi sembra che già abbia una condanna in primo grado, mi sembra. Non lo so, per blasfemo. Ma che tanto blasfemia al massimo? È vero che io chiamai. Non ero d'accordo che lui voleva togliere i crocifissi dai locali pubblici, eccetera, eccetera. Tant'è vero che poi mi avete pure deriso, perché io dissi cominciamo dal crocifisso, poi magari gli addobbiamo. No, però Franco, distinguiamo le due cose. Un conto è dire togliamo i crocifissi dalle aule, che può essere discutibile. Un conto è insultare, come fece lui, la religione. Sono due cose diverse. Beh, diciamo, prendere in giro Gesù e dire togliamo i crocifissi dalle aule. Perché se li avete tutto insieme, a quel punto non è così. Una è una posizione legittima, ma Franco, io poi non ho capito, però io tornerei alla cosa. Scusa Franco, che c'entra togliersi dalle palle Toscani? Non ho capito perché dice sempre le cose inaudite, dice quello che pensa. Ora uno potrebbe dire ma pagherà le conseguenze, speriamo che sia la volta buona, che se sia zitto e basta. Ma perché dovrebbe stare zitto? Perché condanna, ma perché bisogna passare, perché dice le cose assurde. Beh, però, se uno dice le cose assurde effettivamente persona, poi paga per quel che dice, questo è normale. Quindi l'ergastolo verbale, condannato al silenzio per sempre i Toscani perché una volta gli è partita la frizione. Due volte, signore. Ma ha ragione. È normale che uno paghi per quel che dice, però. Scusate, in primo grado. Ma chi se ne frega delle condanne in primo grado? Sai quante persone ci hanno condanne in primo grado? Che vuol dire? Ma non è detto, nemmeno quelle definitive. Nemmeno quelle definitive possono essere segnano una persona per sempre. Sai quanti errori ci sono? Sai quanti giudici si sbagliano sulle diffamazioni? È pieno di giudici che si sbagliano, dai. La giustizia. Ma lui è proprio provocante. Ma l'altra sera. Ma che c'entra? A parte provocatorio. Chiunque chiedevate di vari personaggi, lui ma quello così, ma quello colà, ma quello di giù. È un presuntuoso. Certamente è uno presuntuoso. Basta, questo non c'è dubbio. Questo irrita la gente. È all'altezza della sua presunzione. Può anche permettersi di essere presuntuoso uno con un curriculum come Oliviero Toscani. Adesso, perché ha detto una puttanata, allora tutto quello che dice o tutto quello che fa deve passare sotto silenzio, perché una volta in una radio ha detto una cagata. Io trovo orrendo questa voglia di damnazio memorie. Roberto Trieste, Roberto da Trieste, vai Roberto. Pronto? Dimmi Roberto, dimmi. Niente, volevo telefonare, ho telefonato perché volevo dire che sono contrarissimo al... A che cosa? Ai pagamenti rintracciabili. Ancora? Che c'è? Uno per... Che c'è di nuovo sui pagamenti rintracciabili? Non capito, che è successo? Quelli col banco? Uno perché ingrassiamo i... No, non è solo il discorso del banco, ma soprattutto dei bonifici. Vabbè, allora combatte la pressione fiscale, ovvio. Allora? Combatte, non è che combatte. No. Ma perché non ha chiamato da Barisoni per questo tema? Perché non chiama a Focus Economia? Chiami a Focus Economia, chiama alle 18 invece di rompere i coglioni. Fermo. La zanzara è arrivata, baffone. Vai, allo fuoco, no? È venuto, baffone. Eccoti, viva non bene. Viva la libertà! Viva la libertà! Grazie per la vostra collaborazione. A Napoli! Hai sentito che cosa ha detto Steven Ogongo? Ogongo, ma poi si può chiamare Ogongo, dai Ogongo! Cruciani, il sud si sta risvegliando, è finita anche per te, è finita l'orgoglio del sud, viva le sardine, Cruciani di merda. Comunque Beppe, più vedo l'influencer, più vedo la Martani e più dico, mamma mia la Martani, ma di cosa parliamo? Tutta la vita la Martani. Pippe. Vuoi le canne? Vuoi farti le canne? Fatti le canne quanto cavolo vuoi, però non ti voglio vedere per strada che mi vieni addosso dopo. Fattele a casa le canne, caro il mio stronzo, fattele a casa tua. Crocialenzo. Allora mi arriva un messaggio, buonasera, non capisco per quale motivo chi è contento come me del licenziamento di Toscani sarebbe un miserabile. Sono contento, sono di destra e quell'urido personaggio ha sistematicamente insultato chiunque sta politicamente dalla mia parte. Mi è permesso, ma certo che ti è permesso, assolutamente, cioè. Come no, c'è un sentimento che noi accogliamo volentieri. Tutti i sentimenti sono accolti in questa trasmissione, anche la rabbia, anche l'invidia, anche la vendetta, quello che vuoi, sì, ma qui non c'è. Io da parte mia non sarei odio, contento, cioè, non sarei contento se una persona che mi insulta viene licenziata, cioè non sono ma contento. Qui non c'è comunque l'insulto, però che c'entra qui? No, non ma siamo sto dicendo in generale. C'è il bavaglio, un intellettuale che non potrà più insegnare. Ma nessun bavaglio. Ma non c'entra niente il diritto di parola con la stupidaggine megagalattica. Ma nessun linciaggio. È normale che la società della comunicazione, quando uno dice una stronzata enorme come questa, offendendo la memoria di 43 vittime, viene licenziato. Ma in che mondo viviamo? Non è la libertà di parola. Non esiste sta roba. Ma ragazzi, allora tu stai dicendo che è giusto licenziare. Io, siccome non sono. Assolutamente sì. Ma siccome non faccio l'amministratore delegato di un'azienda e non faccio la comunicazione delle libertà. È quello, ognuno no, di noi dico paga che tu lo stai per facendo, che, se sbaglia, non dico paga che lo stai facendo, che dice, sto no, dicendo che non mi metta automaticamente dalla parte dell'azienda, ne capisco le dinamiche, ma ne capisco anche è l'ipocrisia. È l'agnello che prende su di sé una cosa, tutte le colpe. Ma è una cosa talmente enorme che è ovvio che c'è una conseguenza. Sì. Dai, ma non facciamo. Fermi tutti, però. Mi sembra che ci sia un grande ritorno qua. Lores da Vicenza. Si è smossa. Forse è stata smossa da questa vicenda di Toscani, del signor Toscani. Lores, come andiamo? Ciao Cruciani, benissimo, grazie. Buonasera, signora. Buonasera. Che dici? Intanto che dici? Sono stata colpita dalla compostezza, dalla pacatezza del signore che ha perduto quattro, il fratello e il nipote e la nonna. Tre persone. Sì. Sono stata veramente colpita ed è veramente ammirevole. Sì. Niente, non è nella mia natura infierire sui cadaveri. Perché adesso è un cadavere, no? Ha pagato per quello che ha detto, questa stupidaggine enorme. È un cadavere, sì, e mi dispiace infierire, sì, però... Mediaticamente, insomma, sì. Era logico che dovesse finire così, perché? Quell'essere spregiato. Ma perché un essere spregiato? Prima o dopo ci sarebbe caduto a dire la più grande vaccata che possa dire una bestia, perché è una bestia. Non è una roba che può dire un umano, è una roba che può dire solo una bestia. E prima o dopo quel cretino là ci sarebbe caduto, perché lui è uno sproposito. Spararla grossa. È uno sproposito, certo, ecco. Certo. Perché lui è un continuo così. Comunque... Ma un po' è goduto. Mentre la nostra Loris, invece dice solo frasi misurate, da quello allora, che mi ricordo no, io. Dopo. Lei non è una vecchia pazza, non è una vecchia pazza che spara delle puttanate enormi in anche questa trasmissione, comunque, vero Loris? A parte tutto, Cruciani, no? Io devo rendere atto al coglione, al defunto, devo rendere defunto, atto, insomma, e veramente lo ringrazio, perché oltre a farsi fuori lui... ha fatto fuori anche le sardine in un colpo solo. Questo è vero. Le ha fatte fuori che Dio solo sa come. Le ha messe in padella. È riuscito a distruggere le sarde. Raro, diciamo. Ha fatto un miracolo. D'ora in poi le sardine non esisteranno più. Però certamente un bel colpo gli ha dato. Non è bastato Prodi, non è bastato Garganella. Non è bastato Formigli, Gruber, Floris, no. Ci voleva il coglione Toscani per eliminare le sardine e ce l'ha fatta. Toscani, ovunque tu sia, sei stato grande. Signora Loris, però voglio ritornare alla critica che ha fatto Gottardo, perché dice un discorso di ragionevolezza, dice Gottardo, non può venire una vecchia mentecatta. Potremmo definirla così. L'ho conosciuta di persona ad una cena in cui c'eri anche tu da Gio Formaggio. Ed è sia vecchia che anche mentecatta, indubitabilmente non mi può neanche querelare per queste aggettivazioni. Però voglio dire, vado ad ascoltarla per 5 minuti. Una che chiama attizzatoio uno come te non può che essere un po' mentecatto. C'è una indipendentista veneta come Loris, secondo te una pazza? C'è una come Loris che vuole l'indipendenza? Vuole l'indipendenza. Ha fatto la secessione dal cervello. La signora Loris, dimmi, per favore. Ti ho detto che ho il virus cinese, perciò non sto tanto bene. Lasciami dire due parole. Cioè, non puoi reagire. Reagisci a questa cosa di Gottardo. Attacca un po', Gottardo. Lo dico, ma cosa vuoi attaccare un poro deficiente che è dovuto andare in Sud America per trovarci un tocco di moglie? Che poi racconta alla radio che sua moglie dice mette la vecchia sola. Dice la vecchia, dice la vecchia sola che non se la impippa più. Nessuno. Che porta le mutande col buco, una bandona. Hai capito? Ha usato della lingerie. Ha dovuto andarsela a prendere in Sud America perché qua non trovava. Ma cosa sta dicendo? Perché sono andato sono arrivato vergine ai dei Caraibi, no? Piuttosto che andare con una come lei, sarei rimasto vergine. Abbia pazienza. Sta attento, Buelo. Guarda, certo. Che ti 30 Buelo. Anni, manco de mie te pari menor. Certo, ma non la toccherei neanche con una canna da pesca, neanche 30 anni fa, signora. Ma neanche 30 anni fa, scusi. Ma sei ridotto così. Ma io non ti ho chiesto niente. Comunque, tieni certo, però lei non faccia illazioni sulla mia vita. Con le mutande, col buco e buonanotte a tutti. Ma non ho capito, ma che c'hai le sudamericane? Che c'hai con le sudamericane? Dai, vengono qua affamate e trovano il primo coglione Buelo. Ma affamati di cosa? Ma cosa ne sa? Ma cosa ne sa? Ma non sappiamo tutti, ma dai. Ma si faccia due domande. E quello lì sta lì a guardare. Ma mi scusi, una donna mi scusi, signora Loris. No. Bene, signora ciao, Loris Cruciani, di 70 anni. Signora Loris di 70 anni. Ciao. Signora, tesoro, signora ciao, di 70 anni, niente da fare, scappa. Vedi. Ci mancava però un po' la Loris, con i suoi deliri. La signora Loris. Però devo dire che su Toscana ha fatto un discorso inappuntabile. Da un certo punto di vista ha fatto un discorso inappuntabile. Dal suo punto di vista, cioè gode, però non vuole infierire sul cadavere. Non vuole infierire sul cadavere. Nello stesso tempo dice che ha fatto fuori pure le sardine. Dove sono le sardine in questi giorni? Dove sono? Perché non parlano in pubblico? Non con i comunicati? Non hanno non con i comunicati. E ti informo che lunedì nella Civile Padova ci sarà una grande manifestazione delle sardine. Prendessero le distanze pubblicamente, certo. Dai, prendessero, avanti, coraggio nelle trasmissioni. Perché quella foto? Con chi avete fatto quella foto? Con una persona che ne ha dette di tutti i colori? Ma certo, no, ma la foto deve non è vicino a voi, ma che è riservata. La foto ancora non credi alla propaganda. No, questo l'ha detto anche Toscani, anche l'ha detto, Toscani, infatti, Toscani e lo hanno detto anche loro. Quando? Ed è molto verosimile. Allora è vero che doveva rimanere una foto così, doveva rimanere riservata. Ma come cazzo fai sì, a credere a ste puttanate? Questo è molto verosimile, Antonino, perché non c'era nessun interesse delle sardine, né mi pare tantomeno di Toscani. Tutto a quello che esce da una parte è giusto, tutto quello che esce dall'altra è tutto propaganda. C'è un po' di logica, forse, ma non è c'è vero. Un po' di logica, ma non però, è vero, perché... al contrario, Toscani aveva tutto l'interesse a far uscire fuori quella foto. Tutto l'interesse, forse le sardine no. Non lo so. Quelle di Benetton. Ma scusa, Benetton accanto alle sardine, le persone più popolari in questo momento, evidentemente l'interesse, no? Una ripulita, una ripulita, aveva l'interesse di ripulirsi. Antonino Catania, ma ripulirsi da che cosa? Un conto è la vicenda giudiziaria, un conto ma in è generale, la persona l'immagine, che non c'entra con, il suo, con la sua. Dai. Antonino, dai. Difendi Benetton, continua a difendere Benetton. Antonino, ma da non Catania. Sto difendendo i Benetton in questo momento. No, lo stai difendendo, dai, Antonino, dimmi. Antonino, dimmi. Sì, no, io no, volevo difendo fare le sardine da Benetton. Scoppiato di 100% animalisti, no? Che mette sempre allo stesso piano gli esseri umani con gli animali. Sì, se gli animali sono i primi cacciatori. Sì. Il leone caccia gazzelle, eccetera, eccetera. Che fai? Gli vanno a tagliare le gomme ai leoni. Che ma fanno? Sì, amico mio, ma siamo sempre alle solite. Ancora stai a quell'intervento là del nostro amico Mocavero, che è un grande, grande combattente, per carità, però dice un sacco di cazzate. Secondo me è un grande combattente, ma ne dice, ne dice di ogni. Cacciare degli animali nostra. Che cazzo stanno a dire? Scusa, questo. Ma a me lo dici? Cioè, con me sfondi una porta aperta su queste cose qua. Cioè, ma di che parliamo? Dai, Francesco da Milano, dai, Francesco da Milano, vai. No, me ne stavo trovando un'altra di un altro animalista. Di un pazzo scatenato che voi conoscete molto bene, uno di quelli che, con cui ho avuto grandi scontri qui, che sul coronavirus ne ha detta una, ragazzi. Francesco, dimmi. Allora, io volevo parlare... No, eccolo qua, eccolo qua. Valerio Vassallo, sempre se è lui, no, magari non è un fake, ma credo sia lui. Mamma. Coronavirus, non ti fermare. Il mondo ormai è infestato da persone crudeli e violente, persone che puntano solo ai loro interessi, calpestando senza scrupoli altri esseri senzienti alla natura. Ma a volte qualche evento straordinario, come un'epidemia, si affaccia all'orizzonte. Un evento che potrebbe cambiare le sorti del pianeta, con il controllo demografico della popolazione. E mi spiace solo che il coronavirus non possa essere pilotato su alcune categorie e soprattutto che verrà tutto circoscritto e fermato. Mamma. Malgrado ciò sorrido pensando che le persone che lo hanno contratto sono state responsabili della morte di animali innocenti uccisi come per animali. Gola e tradizione. Se esiste un Dio, spero che ripulisca un po' questo mondo di merda. Coronavirus, non ti fermare. Ma questo è proprio, guarda, ragazzi. Francesco da Milano. Ma è criminale. Francesco, allora. Allora, io volevo parlare un attimo del tema del diritto di voto, di cui si è parlato un po' negli scorsi giorni. Diritto di voto, ma di che cosa vuoi parlare? Del nulla? Cioè... Sì. No, nel fatto che si era messo in discussione, secondo alcuni, ecco, non dovrebbe esserci suffragio universale. Non ma secondo alcuni votare. Chi? Secondo qualche malato di mente non dovrebbe esistere. No, no, forse secondo parlando... Gottardo. Gottardo pensa che non dovrebbe esserci. Ascoltando questa trasmissione, cioè, tu dici che Lores, un po' mi vacilla. Cioè, po tu mi dici vacilla che Lores, il fatto che Lores abbia lo stesso peso che ha Parenzo, che hai tu nella. No, ma che ha lo stesso peso di Zagrebesche, ma è il bello della democrazia, però. È questo, ma cosa vuol dire? Ma meno male che è così. Dimmi. No, è il bello della democrazia, ho detto. Dimmi, Francesco, dimmi. Io volevo dire semplicemente questo, cioè, nel senso, io ho avuto modo di parlare di questo tema con moltissimi coetanei, ma veramente tanti. Ma non parlate di quanti anni ha? Quanti anni ha? Dovreste parlare di figa. 22 si parla solo di a 22 anni uno parla. Ma a 22 anni uno parla del sistema elettorale, parlerà della gnocca, scusami. Anche della gnocca, non c'è dubbio. Sai che è la cosa più inquietante del mondo in tutto questo periodo è che io non ho mai sentito Santuzzo, San Minchio, come si chiama, parlare di figa. Mai. È una cosa inquietante. Motivo. Il problema vero perché dovrebbe farlo il pubblico? Certo, assolutamente. Allora, non ha Cruciani, mai uno che di figa. È incredibile questa uno cosa che, uno che mette me lo renderebbe automaticamente me, simpatico. Mette il cerchiello, come Cristiano Ronaldo. Sarà una coincidenza? Sarà una coincidenza? Stai dando dell'omosessuale uno col cerchiello? Ronaldo, no, Francesco, no, per carità. Aveva Cristiano Ronaldo delle frequentazioni con un pugile marocchino. Ricordo a me stesso. Francesco, uno col cerchiello, se non è lo insultate così gratis, Francesco, dimmi. No, dicevo che semplicemente consultandomi con molti coetanei, diciamo, l'idea che non tutti debbano votare è sempre più diffusa, mi sembra, io questa impressione. Non ho capito, Francesco. Non tutti, cioè voi tra i vostri, tu con i tuoi amici parlate di chi ha diritto di votare e chi non ha diritto di votare. Ma, no, cazzo, ma tra i temi, ma tra i tanti temi. Ma ha ragione, ma una giornata di 24 ore cosa fai? Parli solo di quella roba lì per 24 ma ore. Ma tra i tuoi amici, di pallone, Francesco. Francesco da Milano, tra i tuoi amici c'è gente che mette il cerchiello, per esempio. Il cerchietto, il cerchietto alla capelli, cerchietto ai capelli in testa. No, non ce n'è più, no, non ce n'è più. Cerchiate i capelli, ragazzi, okay, è guardabile. Dai, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Steven Ogongo. Ti è piaciuto sto Steven Ogongo di ieri sera, che è uno dei leader delle sardine romane, o ex sardina romana. Scissionista. Vi rendete conto, no, ragazzi, a che livello siamo arrivati? Questi si sono scissi, litigano tra di loro, ma di cosa parliamo? Sai che alla fine io avrò ragione, io su questi qua avrò ragione come ha avuto ragione Sgarbi su Di Maio. Alla fine tutti noi, me compreso, cioè qui alla radio, abbiamo preso per il culo una volta, mi ricordo, Sgarbi, perché aveva perso col 68% il collegio a Castellammare di Stabia, là dove cazzo era, no, a Castellammare, non mi ricordo dove era, a Pomigliano, e contro Di Maio. Dice, vabbè, parli contro Di Maio. Mille, in una delle mille elezioni a cui Sgarbi partecipa, perché Sgarbi da parlamentare si candida ovunque. In qualsiasi cosa. Abitasse in un condominio, Sgarbi si candiderebbe anche a fare il presidente dell'assemblea condominiale, e poi non andrebbe mai, probabilmente, come succede anche a Sutri, e come succede due volte a settimana in Parlamento. guarda le statistiche della presenza di Sgarbi in Parlamento. Ma non c'è bisogno, Sgarbi al mese per non andare mai in Parlamento. È una cosa incredibile. Allora, ragazzi, vi dicevo che abbiamo preso per il culo Sgarbi su Di Maio. Alla fine lui è rimasto e quell'altro è crollato. E alla fine così sarà. Io rimango e quello crolla nel dimenticatoio, Santuzzo. Questo succederà. Santuzzo, non mi ricordo mai il nome. Allora, con il suo cerchietto, voglio fare un regalo a Gottardo, però. L'altro giorno, sì? È un personaggio straordinario questo. Abbiamo combattuto io e David con questo difensore di Polegato, questo Leo, il fascista Leo. Il fascista Leo. Io lo richiamerei per fare un favore a Gottardo. Dai, fascista. Che difende Polegato dalle torte in faccia. Ottimo, ottimo. Pronto? Pronto? Sì. Sono Cruciani, chi è? Cruciani. Oh. Chi è? Ancora mi chiami? Chi è? Sono Leo. Ah, Leo, il fascista Leo. Sì, perché? No, ma c'è qui Gottardo che ha tirato in faccia il dolce a... Sì. Buonasera, me lo dica in faccia Leone, certo. Leo, il leone da microfono. Un pezzo di merda, stronzo, che se ci avete spaccato il culo. Allora, voi non avete educazione. Non avete educazione perché la persona ha 68 anni, non si tratta in quel modo. Ma che c'entra ancora con sta storia? Ma come c'entra? Ancora? Ma cosa cazzo vuol ma dire? Ma quello è il fascista che sopporti, fascista. Voi parlate di democrazia, no? Ok? Come fa Renzo, come con l'altro che c'è in parte a te, cioè, come il fascista difende la democrazia adesso, è fantastico. No, non hai capito, io sto dicendo che se voi parlate di democrazia, in democrazia anche un criminale, che voi ci dipingete come criminale, ha il diritto di parola. Ma infatti ha parlato. No. Ma infatti ha parlato. No, l'avete scandito, ha parlato. Sì, come tutti i pagliacci, allora, essendo un pagliaccio vestito da pagliaccio, tu sei un clown, si prende la torta in faccia. Tu sei un come coglione. Al circo. Come al circo, caro mio. Cosa devo ringraziare? Cosa devo ringraziare? Lo sai cosa devi ringraziare? Che quel giorno là, dove anche io non sono potuto venire, che se c'ero io, perché se no, se c'ero io, capito? Senti il leone. Facciamoci un confronto, capito? Certo. In diretta, capito? Io ci vengo. Vieni a Padova. Ho uno studio radiofonico aperto in Riviera Tito Livio 52. Ti do anche l'indirizzo. Riviera Tito Livio 52 a Padova. Ti do l'indirizzo. Capito? Me lo porto. Per fare cosa? Vediamo cosa dici. Fermo un attimo. Qual è il problema di tirare addosso? Te lo ripeto per la seconda volta. Qual è il problema di tirare addosso una torta come al bagaglino a un pagliaccio? pagliaccio. Ma uno, pagliaccio, io dico vestito pagliaccio da pagliaccio. Stronzo, pagliaccio sei tu, stronzo. Io non mi sono mai messo un fez in testa. Con un fez in testa, uno fa il saluto romano. E quindi? Fa il saluto romano come i fascisti. E io ho dimostrato che quello non è neanche fascista. Noi siamo fascisti. E sono è vestito da fascista. Tu, se fossi fascista, verresti a cercarmi e mi spareresti almeno nelle gambe. E invece sei solo un leone da microfono. Voi è quello che volete. Ma i fascisti veri li ammazzavano gli antifascisti. Però è vero, però è vero. Però scusami, Leo, è vero che un fascista vero. Non sei neanche fascista. È vero che un fascista vero usa il manganello. Ma lavano la gente. Ma chi l'ha detto? Il povero Gobetti. Il povero Gobetti lo hanno ammazzato di mazzate. E beh, allora, certo. Allora cazzo dici, sta parlando di 100 anni fa, ma e avevano più coglioni di te. Tu sei un decoglionato come quelli che vanno a farsi prendere a pedate sui coglioni dalla ministrice che avevano a Modena. Tu dovresti venire a cercarmi. Se tu fossi veramente fascista, giusto, dovresti venire a cercarmi. Questo è giusto, questo è giusto. Sei un poveretto. Sei un poveretto, non hai i coglioni. Io ho dimostrato a Modena e anche adesso che voi vi vestite da fascisti, ma siete dei poveri senza coglioni. Sei un fascista telefonico, come Polegato, come Polegato, come Polegato, che Polegato come te è un coniglio, siete due conigli, è per quello che siete dello stesso partito. Voglio dire a lei una cosa, devi ringraziare Dio che quel giorno lì non c'ero anch'io. Ancora sì, ma vieni a Padova, ma stai zitto, non vengo a cercarti senza motivo. Tranquillo, fai una cosa del genere. Sei tranquillo. Scusami, amico Leo. Io ho fatto un atto. Tu sei fascista e allora dovresti cercarmi perché io sono antifascista. Io invece sono antipagliacci. Sono antipagliacci come te. Fallo parlare un attimino. Dai, Leo, dimmi. Ti voglio fare una domanda. Ma visto che tu e Parenzo dite che noi siamo criminali fascisti, io voglio sapere il fascismo è criminale. Il fascismo era una dottrina criminale, ma questo mi pare. Sì, buonasera. No, ho detto semplicemente che il fascismo è notoriamente una dottrina. Così ti dico cosa intendo io per fascista. Per me è una roba di folklore, cioè ormai dirsi fascista. No, non è così. La fede fascista riguardano tre punti cardine: Dio, padre e famiglia. Rispetto, doveri, disciplina. Capito? Ma che c'entra? Non è un criminale. Poi dopo lasciamo perdere la storia, che anche lì è tutto da valutare. Scusa, i partigiani. I partigiani per te che cosa sono i partigiani? Ma cioè sono quelli che hanno combattuto, capito? Praticamente Mussolini, perché qualcuno gli ha detto di fare così per interesse, non si è visto. Ma voi mi spiegate cosa sono le foibe, che non lo so. Io ti spiego cos'è un coniglio fascista. Sei tu, basta che ti guardi allo specchio, perché non hai neanche di merda bastardo. Sei tu costato, eccolo, eccolo qua. Vabbè, eccolo, ciao, qua. Ciao, quindi, Leo, però oltre le offese non andiamo. Ciao Leo, ciao. Ma va a fare in culo la deficienza. Mamma mia, che lotta, ragazzi! Che lotta! Ci sono più i fascisti di una volta. Sì, è vero, non perché alla fine se uno dice che è fascista o anche estremista, eccetera, poi alla fine deve arrivare alle estreme conseguenze. Però no? Di no, scusa. Cioè, no, però se uno si dichiara fascista, poi non è che di fronte all'attacco dell'avversario. Sì, ma poco, poco rispetto a quello. Lo fa. Sì, ma se uno si dichiara fascista sul serio, come dice questo qua, no? Beh, alla fine se ti attaccano, tu come rispondi? Non è che rispondi così. Devi almeno fare un attentato alla macchina di Cruciani, capisci? No, almeno culo, questo. Non istigare adesso. Non dare suggerimenti al signor Un Leo. Vecchio Range Rover, che ha una targa che poi diffonderò su Instagram, potrebbe prendere fuoco, per esempio. Comunque, ragazzi, io ripeto quello che è il mio pensiero sulla vicenda Toscani. Allora, ha detto che la Meloni è una ritardata, brutta, ritardata, eccetera. Sulla chiesa di tutti i colori, ne ha dette, di tutti i colori. E il crocifisso, un cadaverino, non mi ricordo cos'è, no, il cadaverino lo disse un altro. Comunque, ha detto di tutto sul crocifisso, sul club di pedofili, eccetera. Salvini che fa i pompini, non so a chi ha detto che fa i pompini ai leghisti. È stato condannato anche per quella frase. Sì, vabbè, secondo me è assurda anche la condanna. I veneti ubriaconi, l'ho difeso su tutte queste condanne, perché questa è libertà di espressione, anche estrema. nessuna di queste invece. Sì. Nessuna. Dopodiché, su tutte queste cose, i Benetton muti non hanno battuto ciglio. E invece adesso, quando si tratta chiaramente del ponte, no, dei 43 morti, direi io, no, no, del ponte, ma va dei bene. 43 morti. Sì, però, ragazzi, dai, su, ma diciamo la verità, questa è. A questo gioco al massacro, io non ci sono. La Zanzara. Dove sei, Veneti? Grazie, grazie. Dove sei, Veneti? Napoli e Africa. Dove sei, Veneti? Oh, ragazzi, al di fuori di ogni politicamente corretto, che poi è tutta ipocrisia, ma a me che cazzo me ne fotte di questi africani? Vengono qui da noi, vogliono essere mantenuti. Cazzo, in Africa scopano come ricci, fanno tutti sti figli e poi ce li sparano da noi. Ma a noi che me ne fotte, devo mantenere sti qua, mandassero a fanculo. Oh, ma stiamo scherzando, andassero a fanculo, politicamente corretto, rifugiati, ma vaffanculo. Crucia, comunque sei una grande lot, tu e che lati munnezzero sole 24 ore, sono stato 2 ore e mezza a telefono ad aspettare per intervenire oggi, 2 ore e mezza. Hai capito? Brutto stronzo del cazzo. E allora? Dove stai facendo? Stai mangiando? No, cosa? Stavo vedendo se per caso sì. Funziona anche a testa in giù, per esempio. È un grande gesto di antifascismo, se ci pensi. Abbiamo fatto faccetta nera. Abbiamo ragazzi, fatto faccetta nera. Gottardo visto che è carnevale, ha preso a torta in faccia il fascista. Perché polega. Vedi, come però tutte le cose fasciste, non farlo più. Come tutte le cose non farlo più. Non farlo più. Mi vedi intimidito? Provo a farlo. Come tutte le cose fasciste. Provo a farlo. Dopo te lo metti a testa e giù. Dai, fallo ancora. Fallo ancora. Dai, fallo legato. Dai, fallo. Vai. No, fermi. Allora, ragazzi, è successo anche questo. Beh, dai. Sì, se l'è meritato. È grazie. Successo anche questo. Sì, però adesso uno non è, si dovrebbe scandalizzare molto perché prende una torta in faccia. I fascisti dovrebbero ma essere, sì. O chiunque agisca come lui o dica quelle ma cose. Ma in testa, poi no, in faccia, dai. Beh, sul fezzo. Era tutto sporco, ragazzi. Era tutto sporco. Sul fezzo. Comunque, ne succedono di tutti i colori. C'è un comune in Italia. Ragazzi, vi assicuro, un comune di Cremona, che è un comune importante, no? Cioè, non è un, come no? Cioè, non è un comune, certo. Un piccolo comune del cazzo, è il comune di Cremona, capoluogo, città importante, città di cultura, città d'arte, cioè, il comune di Cremona ha distribuito un opuscolo, mi dicono sostanzialmente il PD, assessori che si riferiscono al PD, in cui c'è scritto che fare meno figli, tra le altre cose, non mangiare tanta carne, eccetera, fare meno figli è una delle azioni individuali più efficaci per mitigare i cambiamenti climatici. Ti giuro, hanno scritto così. Ah. Fare meno figli. Fare meno figli. Questi signori scrivono le cose di cui evidentemente sono convinti, di cui sono convinti, dopodiché il sindaco e questi qua prendono le distanze. Ha fatto benissimo il sindaco. Ma prendono le distanze di che? Ma l'hai fatto ma tu? Non l'avrà visto. L'hai fatto? Ma non l'avrà visto. Colpa tua. Detto, colpa scrivete? Tua. Ma scusa, che distanze ma prendi? ma dai, una responsabilità, ragazzi, politica prendono, è oggettiva. Ma tutti prendono le distanze da tutto, anche allora, da se stessi. Ognuno è responsabile di quel che dice lui. Se il tuo assessore ma dice comune, una roba, il comune c'è il bollo del sindaco su ogni cosa. Il sindaco controlla tutto quello che esce sbagliato, dal comune. Un opuscolo importante in cui si parla di cambiamento climatico. A parte che cazzo c'entra il comune, ma lasciamo perdere. Uno fa un opuscolo. Il comune sul cambiamento climatico c'entra. Sì, ma voglio dire, uno fa un opuscolo sul cambiamento climatico. Già, io avrei da ridire. È una follia assoluta. In cui si dice meno figli, fare meno figli. Mica siamo in Cina. Una delle azioni individuali più efficaci per mitigare i cambiamenti climatici, fare meno figli. Dico, anche il suicidio potrebbe essere effettivamente un. Ma di che parliamo? Questi qua dovrebbero essere. Vuol dire? Ma perché uno non se ne. In questi casi uno dovrebbe avere la dignità. Quello che l'ha scritto materialmente l'assessore di riferimento, di dire: guarda, ho fatto una cazzata, me ne vado. Sì, oppure non l'ho controllato. O dovrebbe essere preso a calci nel sedere. Dice, questo, calci mai. Vabbè, mai. Ma calci metaforici, naturalmente, non calci veri, no? È un uso stupido di denaro pubblico. Oppure, attenzione, seconda possibilità: dire no, è vero, sono convinto. Lo mantengo, non ritiri l'opuscolo. Che cazzo ritiri l'opuscolo? Beh, ritiro, per forza lo ritiro. È imbarazzante. Ho capito. Chi caccia i soldi? Chi caccia i soldi di quell'opuscolo lì? Allora, vogliamo dire. Hanno sbagliato a scrivere una cosa. Ritirate l'opuscolo. Ma non è che tu. Fatto benissimo, certo. Andiamo per logica, no? Andiamo per logica. Se tu scrivi un opuscolo, non è una frase detta alla radio come quella di Toscani che può essere sfuggita, no? Cioè. Se scrivi su un opuscolo significa che c'è un controllo, cioè, aspetta, c'è un controllo, c'è la stampa, c'è il ripasso, c'è la gente che come in tutte le cose. Se tu te ne esci con un opuscolo in cui dici le prime cause di emissioni che alternano il clima, la filiera del cibo, i consumi, l'energia degli edifici, i trasporti e dunque le quattro azioni individuali più efficaci per mitigare i cambiamenti climatici sono meno carne rossa, meno figli, no auto, no aereo, tra l'altro ci sono un'altra serie di cazzate incredibili, no aereo, cioè questo sembra Greta Thunberg a Cremona. Se tu vuoi fare Greta Thunberg a Cremona, fai Greta Thunberg a Cremona, devi essere coerente. E allora sì, l'ho scritto, ne sono convinta, non che ritiri. Che cazzo ritiri dopo che l'hai scritto? A me mi fa impazzire questa roba qui. Ma perché uno che sbaglia dice abbiamo ma sbagliato, come fai a tutto? Sbagliare su una cosa scritta e ripassata? Uno se ha maggior ragione, come? Ma non è che ve lo lasci in circolazione, però, diglielo tu, ti prego. Ma no, ma avete una strana idea di coerenza. No, uno dice non può essere questo, perché lo perché ho detto ci credi. Una stronzata, siccome sono coerente, no, continuo a dire la stessa stronzata. Ma è sbagliata la premessa. Tu ci credi in quella cosa, altrimenti non l'avresti scritta. Crede? Quello ma che l'ha scritta. Il funzionario, no, non so ma chi. Che funzionario, l'assessore come minimo. Ha scritto una follia. Ma ho capito, ma se. Ragazzi, però io non mi spiego. No, se ma tu io l'hai quello scritta che tu non capisci e sei che convinto, ma perché devi andare fino in fondo? Ma perché è convinto di quello che ha scritto? Ma perché? Come? Se uno allora che l'hai scritto a fare? Scusa. Ma se uno. Ma evidentemente si è accorto di aver scritto una stronzata. Ma come no? Ti sei accorto? Una cosa del genere è convinzione. Sì, che tu sei convinto di queste robe qua, altrimenti non lo scrivi. Non è una frase sfuggita. Vabbè, ragazzi, non ci insistiamo su questo, mi pare abbastanza chiaro. Cioè, ma questa. Un imbecille non cambia idea. Se mi dicono, guarda, che quella. Ti faccio riflettere. Allora, cosa ha cambiato idea sul clima. Improvvisamente ha cambiato idea. Lui, ma il sindaco magari sicuramente Graziano da Verona, dai, Graziano da Verona. Non sapeva di questa roba. Tra le altre cose, l'idea di fare pochi figli corrobora un antico adagio di Donato da Varese, che diceva che devono far smettere di far partorire le donne in Africa. Quindi basterebbe quindi, quello, certo. L'amministrazione di sinistra di Cremona è vicina alle idee di Donato da Varese. Io ho due domande, cioè, me secondo le farei. Me ci sono due opzioni. Uno, sono convinti e alla fine si cagano sotto, dunque non sono convinti di un cazzo, è solo propaganda, cosa che penso io. Probabile, Seconda roba. Sono di Cialtroni, esatto, sono di Cialtroni. Forse più questa, forse Graziano da Verona, dai, Graziano. Oppure sono convinti e poi se la fanno sotto. Graziano, dimmi. No, io volevo spezzare la lancia a favore dei toscani. Non è che questo fosse ubriaco quando ha parlato, visto che è nato in Veneto e, come ha detto lui, i veneti sono tutti ubriaconi, magari era in quella fase lì. Non lo so, può darsi. Non credo, perché la cosa è stata pronunciata alle ore, credo, 13.50, 14.20, non so, del pomeriggio. Ma sai, l'aria del Veneto rimane, può darsi rimane, che si sia fatto rimane, un cicchetto. Non lo so. Visto che non lui, visto non che credo, lui, però, posso dirti. Veneti, ma posso dirti? Siamo tutti ubriachi, quindi magari c'è cascato anche lui, insomma, ecco. Posso dirti tutto che lì. Secondo me non è così. Secondo me non è affatto così. Cioè, secondo me non c'entra niente la questione della. È uscita proprio male, fine. Gli è uscito, no, l'ubriachezza non c'entra. L'ubriachezza poi non c'entra. Se fosse stato, cioè, forse hai ragione, perché i venti, le sarde le mangiano in Saor, non ci vanno a a fare. Ma i Graziano da Verona è sobrio in questo momento o si è sfondato un paio di volte? Ha diritto di essere anche ubriaco, però, Graziano. Guarda, per lo stesso motivo, sono veneto come te, io non ho mai offeso nessuno. E lui quando parla, generalizza dei veneti, deve stare molto attento. E quindi io non capisco se secondo te ho detto qualcosa da ubriaco. Beh, forse aveva ragione Toscana. Non era ubriaco. Nazareno Ascoli, vai. No, anzi no, andiamo a Ester, Ester, provincia di Milano. Ester, dimmi. Pronto? Dimmi Ester. Senta, perché lei continua a offendere chi? Le sardine, che ci sono anche gente di una certa età, la Greta. Ma noi abbiamo bisogno di ragazzi che dicono la sua, che si svegliano. Perché brava, se i ragazzi Ester, prendono l'esempio dei messaggi che manda lei, non andiamo più a casa, perché lei ce l'ha sempre con gli emigrati. Lei avrebbe bisogno di prendere la valigia e scappare da una guerra, poi mandarli in Libia a farsi torturare un po'. Ester, almeno la è la solita vecchia rincoglionita, la solita vecchia. Rincoglionito lei. No, poveretta, ma perché rincoglionita? Anche lei, il suo amico che c'è lì, no, Parenzo. Quell'altro, lei le spara grosse come una casa e poi dopo. Ma che vuoi da me? Ma che vuoi da me? Dentro, le dà dell'imbecille. Ma che vuoi lei da me? Ha ragione. Quei messaggi che fanno schifo. Ma chi i messaggi? Le sardine e ci sono meglio di lei. Ma chi se ne frega, Ester? Stai con le sardine. Parlare di quelle persone lì che Ester hanno un'educazione, certo, va bene. Buonasera. Ma vai a cagare, Ester, rincoglionita. Richiamami un attimo sta rincoglionita, che io ogni volta che la sento non la sopporto, non voglio ma più nemmeno rispondere. Per questa ma signora è rincoglionita della dice provincia cose di assoluto Milano. Buon senso. L'educazione. Ma è meno cose rincoglionita di Lores, è meno rincoglionita di ma Lores, adesso la farei combattere con la serie, sarebbe un grande scontro. Ester contro Lores. Ma per carità. Pensa, Ester contro Lores, vi prego. Ti prego, fatemi questo regalo. Fatemi questo regalo. Ester contro Lores, se mi stai ascoltando, ti prego, rispondi al telefono perché ti voglio far parlare con Ester. Con Ester, ti prego. C'è Ester di nuovo, c'è o non c'è Ester? Adesso la riprendiamo. Adriana da Roma, intanto mi hanno raggiunto due simpatici. Mamma mia, chi è questa? Adriana, dimmi Adriana. Chi è Ester, Ester. Dei terroristi bloccano Ester. Sì. Oh, allora, ma io voglio capire, ogni volta, perché mi devi rompere i coglioni? Spiegami perché. Ma io mi... non lo rompo mica, lei non ha mica perso. Io esprimo le mie idee sulle sardine, chiaro? Lei dice tutto quello che vuole. Poi dopo gli altri se lo toccano dentro come adesso, lei mi dice che le rompo le scatole, lei ha aperto. Non le rompono le scatole quella signora lì che dà della M a tutti e sta le ore al telefono a dirle Lores, che vanno a casa, Lores, fra Africa di qua, Africa Lores, di là. Lores. Quella lì non fa niente. Ti piace, io Lores? Mi dà fastidio che voi siete delle... Lei è vano un microfono, poi è una persona anziana, è un padre, certo, no? E allora, guardi quei ragazzi lì che si svegliano un po', che sono quelli fregati perché... Ma che dici? Ma che fai? La psicologa? Che fai? La psicologa? Non lavora, i treni no, studiano e poi sono a spasso. Ma che e allora dice? Che vadano in piazza, dovrebbe essere contento. Allora, Lores, buonasera, aspetta, buonasera. Fermala, ferma! Richiama un po', Lores, ci sei o no? Non c'è nessuno, vabbè, via. Ragazzi, torniamo tra un attimo, caro Parenzo, puoi già vedere dal tuo schermo vedo interno vedo della gente vestita con amico modo mio o carnevalesco o sono dei terroristi perché hanno del no, volto coperto terroristi. Né. Beh, carnevale no. Né carnevale no ma né uno c'ha una calzamaglia o un rapinatore e quindi ma sicuro che non lo so. C'ha la calzamaglia no, in faccia non lo so. Due personaggi della realtà moderna della libertà, due apostoli della libertà, io potrei dire, due apostoli, due rappresentanti della libertà sessuale che ci racconteranno fra poco. Peccato che Gottardo non ma sia qui. Li sto vedendo dalla webcam. Ah, ce l'hai pure te la webcam, ma che cazzo abbiamo fatto? Beh, certo. Un progresso da questo punto di vista. Sono inquietanti, però. C'è la signorina molto carina, sì, quell'altro c'ha più trippa di me, però il maschio. Ma che stai scherzando? Questo più trippa di te. È un ciccione totale. Ma che cazzo dai dici? Sei impazzito? La gente non può vedere comunque. Grande collegamento con un pezzo di libertà italiana. Fra pochissimo ci racconteranno cosa significa fare il master in Italia. Il master. Ah, il master dopo l'università, no, certo, giusto. Mio. Bravo. Non c'entra. Ah, chi? Mio nipote? I masters? È l'università, sì, ma un altro tipo di università. Giusto, un altro tipo di università. Master era lui, probabilmente. No, certo. No, no, che no. È là vicino, no. Però. Fermo. La Zanzara. Questi demo che fanno la musica rap, trap, truppe, trap, ma lascia perdere, che cazzo, per me lo male dei cocci, prima la musica era melodia, passione, passione. E non abbiamo mai finito un film, Davide, preferivamo scappare, prima la musica era melodia, melodia, coda scelta gli occhi rossi e poi, Parenzo, preferivamo scappare. Questi demo che fanno la musica rap, trap, truppe, trap, ma lascia perdere, che cazzo, per me lo male dei cocci, prima la musica era melodia, passione. Toc toc! Giuseppe, come molti ascoltatori ho il problema della mia compagna che non vuole fare sesso anale. Quindi mi chiedevo, avete conoscete sì. delle tecniche per diciamo no di persuasione, ma per avvicinare le persone che hanno un po' quella rigidità mentale a provare cose nuove? Se avete, ecco, potreste fare una rubrica di psicologia che dà consigli come, su come diciamo, perché la mia compagna no, proprio non ne vuole sapere. Accidenti. Che cosa, mio nipote? Mio nipote è stato in Inghilterra a fare i master. Sì, roba vecchia quella del corso per il sesso anale, roba vecchia. Potete trovare dei tutor ovunque, dei tutor. Ma caro Parenzo, qui in studio a Milano abbiamo sì. due signori, un uomo e una donna. Uno sì. si chiama Sean, nome chiaramente un Sean po' Penn. Non Sean de plume si potrebbe dire, no? Sì, sì. Nome un po' d'arte, un cinquantenne milanese, un'altra, buonasera signor Sean, buonasera. Buonasera. Buonasera, e un'altra si chiama Lily, ha una trentina d'anni, anch'essa milanese, buonasera. Ma perché sono buonasera. Coperti? Buonasera. Perché allora, avete il viso coperto? Questo hanno il viso coperto perché chiaramente hanno, mostrano qualcosa del loro privato qui in questa okay. sede. E di non cui vogliono... si vergognano, no? No, non credo che si vergognino, però naturalmente purtroppo in questo paese bigotto dove uno non può dire quello che fa nel privato, altrimenti vieni dipinto come un maiale, un porco, eccetera. Uno protegge la propria, no, la propria privacy, giusto, Sean? Esatto, o sbaglio? Esatto. Allora, cosa fa il signor Sean? Cosa fa il signor, il signor Sean? Sean è un master, cioè fa master. Un altro mestiere nella vita. Adesso, se vuole, ci dice cosa fa, se vuole, non ce lo dice per non essere riconosciuto. Immagino non ce lo vuoi dire cosa fai, Sean, nella vita. Esatto, non lo vuoi dire, però fa il master. Il master significa che ha delle schiave o degli schiavi, giusto? Schiave, sì. Ah, e soprattutto quante schiave hai tu a tua disposizione? Solo schiave, una decina. Una decina, ma a tua disposizione sempre? Quando voglia, sì. Anche qui c'è una corda, lui tiene con una corda, sì. Lili, un guinzaglio, sì, certamente. Dov'è un guinzaglio? Guinzaglio? Eccolo qui, lo puoi far vedere. In dove, dove l'ha messo il guinzaglio? Attorno al collo della signora? Sì, beh, certo, guinzaglio, va la signora che è la sua slave. E la signora si è fatta mettere il guinzaglio al collo. È una maschera... Con una maschera da gatta la signora Lili. Una maschera da gatto, bravo. Signora Lili, lei è contenta di fare la schiava? Di fare la schiava di Sean, sì. Sì, cioè tu sei a disposizione qualsiasi cosa Sean chieda dal punto di vista sessuale, diciamo la verità qui, poi la sostanza è quella. Parte tutto dalla testa, ma è chiaro. Ma siete sposati, voi state insieme però. Ma, No. Sei contenta di fare la schiava o no? Sì, ripeto, beh, di Sean sì. Ma lei, avete delle vite cioè lei, diciamo, il signor Sean, il dottor Sean, il sua eccellenza Sean, chiamiamolo così, sua eccellenza Master. Sean è sposato, ha una vita... Domanda di Parenzo, risposta di Sean? Se ho il Mephisto addosso ci sarà un motivo, voglio parlare di Master Sean e non di altro. Capito? Hai visto questa vita. Voce? Ha una voce che mette anche un po' di, sì, ma inquietante, un po' di timore. Con quel cappuccio lì, se io lo vedo per strada, mi spavento, quello un sicuro. Un po' di timore. No, ma c'è è sicuro, tutto borchiato. Certo. Mette un po' di timore soprattutto per questa voce straordinaria. Una voce veramente da padrone. Cioè uno si spaventa, dice non mi domandare che cazzo di vita privata ho. E parlo di Master Sean. La signora invece una domandina forse può rispondere. Sei fidanzata, sposata? Fidanzata. E il fidanzato partecipa a queste sessioni, diciamo, di Master Slave? No, oppure no? Non partecipa. E non sa. Però lo sa. Ah, lo sa. E non un po'. Ed è contento, cornuto contento, evviva, evviva. Non è cornuto. Non è cornuto, stai attento alle parole come che usi. Come fa a non essere cornuto? No, non è cornuto, secondo la loro mentalità non è cornuto. Ah, non è cornuto, non è cornuto, disse la signora al guinzaglio con la maschera da gatta vestita esatto. di pelle. State zitti un attimo, fate spiegare perché secondo lei il suo fidanzato non è cornuto, non fate sempre le solite battute del cazzo. Evviva, allora. Perché... Da una parte c'è una relazione con un rapporto amoroso, dall'altra invece un gioco. un gioco sessuale, soprattutto un gioco, cioè, non, lui non è, non è geloso del fatto che tu sostanzialmente, poi spiegheremo bene, ti fai fare qualsiasi cosa, poi, poi vediamo che cosa da Sean o da altre persone in queste sessioni, diciamo, di master slave, non è geloso, no, di questa, no, cosa allora, non è da altre persone, è solo da me. Ah, è solo da te, specifichiamo. Ah, no, scusi, scusi, perché... scusi, scusi, scusi eccellenza, scusi, sua eccellenza, scusi. La puntualizzazione era d'obbligo, sì. Come c'è la macchina, c'è una scelta, c'è una della slave nei confronti del master, sì. La slave, scusate, non è costantemente slave. Certo, scusate se chiedo una cosa molto pratica. Nella mia vita normale, banale, per carità, noiosa, mainstream, chiamate come volete. Se una sera dico a mia moglie: guarda, andiamo al cinema, dice sì, volentieri, andiamo con chi? Con Domitilla, Emilio, eccetera, andiamo al cinema, oh, tranquillamente. Quello che c'entra. Invece, non riesco a capire, nella sua normale vita, anche la sua, non voglio dar giudizi morali, davvero. Lei dice al suo fidanzato: guarda, scusa, mio amore, vado a fare la serva dal dottor schiava, Sean. Schiava. La schiava da Sean. Da Sean. E allora lui dice: e il compagno dice: evviva, vai pure, come reagisce il tuo mettiti fidanzato? Il guinzaglio, mettiti il guinzaglio e fatti fare tutto da questo signor Sean. Ora, se questa è la normalità per voi, io dico semplicemente: non evviva. È la normalità, è una parte della vita. Non ci sono solo persone che fanno la tua vita. E spiegaglielo tu, Sean. Questo dai, ci ti prego, spiegaglielo tu. Spiegaglielo tu. Come si chiama questo? Parenzo, Davide Parenzo. Sì, okay. Sì, ma non occorre che sappia il mio nome, non si preoccupi, caro. Amico. Tu amico, sai, caro, cos'è una perversione? Come, la vedo, la presentata in studio, sì, okay, certo, esattamente lì volevo arrivare. Tu vedi me una persona, in noi una, due persone perverse, giusto? Beh, diciamo insomma, allora, la perversione è quando tu, parlando di perversioni sessuali, raggiungi il godimento solo facendo una determinata cosa. Sì. Quindi io spazio in mille cose diverse. Se tu con la tua signora, lei sotto, tu sopra, fate sempre quello da 20 anni, sei molto più perverso di me. No, secondo il dizionario, è straordinaria questa cosa qua. Cioè il vero perverso, sta dicendo Sean, scusami se traduco, caro sono Sean, sì, il rigendo, vero perverso sei tu. Perché tu fai due tre posizioncine. Ma non lo so quello posizioncine. Che faccio io. Io non so quello che faccio io, ma non mi faccio mettere un collare e non esco il sabato sera con un collare allora, e una maschera, certo, e mi faccio calpestare da un signore che si chiama Sean. Certo, sì, ma mai è lo vero, farei, sono un perverso perché non faccio queste cose. È vabbè, vero? È vero. Allora, la risposta ultima, poi cambiamo argomento, di no, Sean Apparenzo, che lui dice: signor Sean, lui dice, vabbè, io sono intimorito. Io sono intimorito, Sean, qui dalla sua voce. Da questa, allora, sembra un testimone di giustizia. Dimmi. Sì, sì, no, esatto. Ultimo. Dimmi. Il discorso è che le slave mi cercano, quindi le slave lo cercano. Io rispondo a questo certo, e do quello che in fondo loro cercano. Se tu saprai il successo di questi film abbinati alle sfumature di grigio, di nero, di rosso, ok? Le donne che vanno in gruppo a vedere questi film, vuol dire che c'è un bisogno di queste cose. Se vuoi te lo può spiegare la mia c'è schiava, un mercato, qual è il bisogno. C'è un mercato. Sì, diciamo la schiava. Quante slave ti cercano, Sean? Allora, mi cercano, negli anni sono riuscito ad avere più di 30 slave, ma ultimamente c'è molta richiesta. Adesso quante non ne hai detto 10? Che le prendo tutte, infatti, assolutamente no. Come fai a scegliere? Come fai a scegliere quelle la che testa, la testa, le più intelligenti, faccio come McDonald's che sceglie le laureate per lavorare. C'è molta richiesta e io vedo la testa. Certo. Ma perché la gente, cioè perché tu hai scelto di, adesso spiegheremo che lui terrà il 13 febbraio qui a Milano un corso per master. Ah, hai capito? Un corso come peccato che siamo a Firenze. Peccato infatti, che siamo a Firenze, perché altrimenti sarebbe stato bellissimo fare la zanzara dal corso per vero? Master. Giusto, sarebbe stata una cosa fantastica. No, non credo che sia possibile, perché la gente tiene la privacy in questo caso. Però voglio dire, un corso, cioè la gente vuole diventare master, cioè maschi che vogliono diventare allora, master. Nasce tutto da un sito, non so se posso dirlo. Ah, dillo, certo. Il sito è sexinitaly.com. Lì è stato pubblicizzato il corso. Sì. Il corso è andato esaurito in una cosa, sera sola, c'erano certo, 10 posti. Sì. Quanto si paga? Si paga l'ingresso al locale che ci ospita, non è, il corso non ha un costo. Beh sì, ecco qua mi hanno preparato tutta una scheda, 130 euro più o meno si paga. Quello è l'ingresso al locale. E sì, che cosa, questo corso a cosa serve? Allora, prima di tutto serve a scoprire se tu sei una persona che puoi fare questa cosa. Cioè se puoi diventare un master. Se puoi diventare sarebbe un master. Straordinario, Parenzo, tutto borchiato che diventa, che sì, cerca no, di diventare no, no, no, un ma master. Allora, non ho nessuna intenzione. Attenzione, l'essere borchiati o vedere... Questo qui io faccio anche delle sessioni, diciamo... Le sessioni, magari, di BDSM, sì. Sì, di BDSM, allora c'è un certo uso di costumi vari, se no non è che serve. Non è necessario, sì, non è necessario. Il master è nella testa, cioè se una persona... Se sei dominante, se hai una mentalità dominante, o no? Se sei dominante lo capisci. Quello che io voglio insegnare a queste persone che verranno a sentire è come riconoscere le slave, come riconoscere tra le schiave, migliaia di donne che ci circondano ogni giorno nella nostra vita una slave. Ora ragazzi, la cosa è questa: adesso, oggi in questo mondo da cui siamo circondati di buonismo, di perbenismo, di perbenismo, di me too, di femminismo del terzo millennio, eccetera, e qui siamo abituati al fatto che parlare di slave sembra quasi una cosa offensiva nei confronti di una donna. Invece una che vuole fare la slave lo fa in piena libertà. Qui l'amica Lilly, che è qui presente, non è che si sente offesa se è una slave, sì, anzi, ma se ha la signora simpaticissima e rispettabilissima che è lì seduta negli studi del Sole 24 Ore e Confindustria, se alla signora piace farsi mettere un collare al collo, mettersi la maschera e stare alle dipendenze di questo signore con la voce che a confronto tra Torina sembra il capo dell'Accademia dei Lincei, guarda, benissimo, e viva questa signora. Ma Terenzo? Io non come si chiama Terenzo? Parezzo. Ma non ditemi che è normalità, però facciamo che te lo spiega lei, dai, in due parole. Vai, perché digli. Si tratta di un gioco di potere e di scambio di potere, per cui una persona, una donna in particolare, che non è schiava nella vita, ma magari solitamente è una persona che deve tutto il giorno e quindi alla luce del sole tenere le redini di un'impresa, avere qualcuno sotto di lei. Tu lavori, cioè lavori, sei nella vita. Io lavoro, ho un ruolo di leader. Ho delle persone che devo comandare costantemente. Cioè, ma cosa ti piace di questo ruolo? L'aspetto sessuale, cioè il fatto di lasciarmi andare. Di farti lasciarti andare. Ma che ti fai fare da Sean? Diciamo, la cosa che ti piace più. Così cerchiamo di capire questo. La cosa che ti piace di più, diciamo, andiamo al sodo poi alla fine, no? Per carità, abbiamo capito la psicologia, eccetera. Che cosa che ti piace di più? Il guinzaglio. Lasciare la mia libertà, farmi possedere, farmi bloccare, tenere ferma e farti scopare. Certo, sì. Alla fine in tutti i modi. Allora, Giuseppe, il BDSM, il mondo BDSM è diviso in due. Ci sono quelli che lo fanno finalizzato a se stesso, senza atto sessuale. E ci sono quelli che finalizzano il tutto all'atto sessuale. E tu sei io appartengo alla seconda categoria. Fermi tutti, torniamo tra pochissimo a parlare di questi due personaggi straordinari che in qualche modo ci mettono la faccia, perché comunque sono qui con la faccia coperta, certamente. Master Sean, tra l'altro, lei c'ha anche il culo un po' scoperto, vero? C'è anche il culo un po' di fuori con questa tutina. Master Sean e la signora Lilly, la sua slave. A tra poco. La zanzara. Grande Max, grande Max. Ciao Rocco. Invita l'amichetto tuo lì davanti, si sceglie la donna, da te in radio, voglio vedere se hai coglioni, si sceglie la donna, a me mi metti una vecchia di 90 anni senza denti con la dentiera e me la inculo e mi inculo pure lui, me lo inculo insieme alla vecchietta. Grande Max. Ciao Rocco. Buonasera Giuseppe, mi sembrava di essere sul set di un film porno. Fateli più spesso questi collegamenti. Quali collegamenti? Con la Morellata. Con la Morellata, con chi? Con mio fratello, non ho capito. Allora, mentre nel paese succede di tutto, caro David, treni che deragliano. Il governatore del mondo, politica. Fammi sentire webmaster. Vabbè, adesso dobbiamo riprendere. Quando parla il master, webmaster. Ma che c'entra? Webmaster è un'altra cosa rispetto al master, dai. Webmaster, fammi sentire webmaster. Allora, abbiamo il coronavirus, i treni che deragliano, noi invece ci vogliamo divertire presentandovi uno spaccato d'Italia che molti non conoscono. Ma 0,5%, quanti sarà? Anzi, quanti saranno, sì, questi? Ma scusa, ma se tanto mi dà tanto, Sean, che è qui presente, che è un master che organizza dei corsi qui a Milano il prossimo 13 e forse anche a marzo, perché sono andati tutti esauriti per diventare master, in cui ci saranno anche delle prove pratiche. Cioè, quante slave Sean, ci saranno in questi corsi qua? Faranno delle dimostrazioni, cioè, se scopa in questi corsi poi alla fine, diciamo, andiamo al sodo. Si va al lato pratico, certo. Si va al lato, cioè, tu hai recluti una serie di schiave che sono a disposizione di questi che vogliono diventare master. Ce ne sarà una sola. Una sola. Loro si devono innanzitutto concentrare sulla teoria, capire quello che dico, perché sennò è inutile. Ti ripeto, non tutti gli uomini possono farlo. Sono pronti, farlo. Sì, certo. Non vero, sono vero. Pronti. Sì. La, ma cosa dire, sono pronti? Beh, sarà, sono pronti slave a diventare master. Sì. Ma cosa parlate? Cosa vuol dire? Fai sentire che qui è interessante. Ci sarà una slave a disposizione per le prove, diciamo, pratiche. Dopo la teoria c'è la pratica. Sì. E l'esame? E queste prove consistono, sono varie prove, consistono tipo? Appunto, ad esempio, nel come si lega una slave per averla a disposizione per pratiche, anche per pratiche anali, o piuttosto che... Cioè, poi viene fatta anche la penetrazione anale, tutto, sì, viene fatta, certo, viene praticata, certo. Pioggia dorata, per esempio, no? Pioggia dorata, certo. Sì. Ma la consegna dei diplomi poi dove avviene? Cioè, no, nessuna consegna. Nessun diploma. Cioè, quali sono le pratiche praticamente che tu spiegherai, il tipo di pratiche, e poi la slave dovrà praticamente farle quasi tutte queste pratiche, o no? Sì, sì, sì. Cioè, quali sarebbero, per esempio? Lei ha totale disposizione. C'è lo spanking, che sarebbe la sculacciata. Sculacciamento. Poi? Si parte da lì, poi? Si arrossa. Ma con racchetta? Ma con racchetta di pelle o a mano, vuota? A mano libera. No, mano non libera. Non do in mano strumenti a persone che non sanno usarli. Giusto, vedi, è precisa la cosa. Poi? Okay, quindi ce ne sono di il deep throat, per esempio. Deep throat? Conosci deep throat? La gola profonda. Sai che cos'è il deep throat? Cioè, non pratichi il deep throat. Conosco l'ice cream, conosco... Non deep throat. Ragazzi, ma siamo all'ignoranza abissale. Non sa che cos'è il deep throat. Sì, poi, non lo so, vi chiedo scusa. Ci sarà il deep fake, tecniche di soffocamento. Tecniche di soffocamento, senza mano, però, pazzo. Senza come usare. Ma vedi, quando tu applichi dolore e piacere allo stesso tempo, succede questo. Beh, però sono pericolose quelle tecniche lì. Appunto per quello che appunto per quello che insegno a non fare danni. E il soffocamento come viene praticato? Col pisello, naturalmente? No. Con la mano. Ah, con la mano. Soffocamento. Allora, quando ti arriva, è provato, quando ti arriva meno ossigeno al cervello, durante un rapporto hai più godimento. Ah, uno prova piacere. Beh, sì, questa è abbastanza, è una cosa abbastanza. Una sì. Comunque, invece, il discorso quando arriva meno ossigeno al cervello, poi di solito voti anche sbagliato le successive elezioni. Non ho ancora sentito la domanda di Parenzo su chi vuoi. No, voglio andare fino in fondo perché ho il terrore della risposta. Quindi voglio andare fino in fondo. Allora, quando senti dolore e piacere allo stesso tempo, il cervello va in tilt perché non sa più quale dei due segnali dare retta, e quindi aumenta il piacere. Ecco, fa lo stesso lavoro che fa la chimica quando prendi delle pastiglie, solo che qui siamo a livello di endorfine personali, ecco. Quindi non droga, hai bisogno insomma. Di droghe, io non mi drogo, non ho mai fumato, sono totalmente astemio, quindi... Sì, però c'ha bisogno altri, di niente. C'ha altri problemini, secondo me. Ma perché problemini? No. Scusami Lilli, voglio capire, di tutte queste pratiche che hai elencato, il tuo padrone, Lilli la chiama. La schiava Lilli cosa preferisce? Cioè lo spanking, l'anilingus, il bucacche, che è un'altra cosa abbastanza comune. Il bucato. Bucacche si chiama, bucacche, anzi non so esatto la pronuncia, la pioggia dorata, il deep throat, il soffocamento, di tutte queste cose preferisci te? Le ultime due sono notevoli. Cioè il deep throat e il soffocamento? Sì. Cioè questo preferisci. La signora, la schiava Lilli. Senta schiava Lilli, ma lei il sesso ascellare lo ha mai praticato? No, quelle sono stronzate. No, dai, ma quello figurati. Ah, vabbè, tra un bucacche e un deep throat potrebbe anche succedere. Cara Lilli, non rispondo alla provocazione. Gli ho detto di non rispondere. Ha detto di non rispondere. Gli ho detto io di non rispondere. Senti, tutte le schiave che tu hai avuto in questo... quali sono? Cioè, erano gente sposata, di tutti i tipi, immagino. Allora, ci sono ragazze giovani, ci sono donne di una certa età. Fondamentalmente ci sono donne che vogliono provare un'esperienza che le porti al di là dei sensi normali, diciamo. Ma il marito, per esempio, in alcuni casi vuole portare la moglie lì, oppure lo fanno di loro... spontanea volontà, volte, di nascosto dal marito. alle volte, la maggior parte sono deluse da una vita sessuale piatta e certo, cercano qualcosa certo, farsi legare, d'altro. Quindi, certo, alcune poi lo dicono, alcune non lo dicono. Ma la signora porta il suo fidanzato? Non a questo incontro? Non lo porta. Siamo entrati nella fase della dominazione in cui praticamente Sean non lascia parlare Lilly. Ah. No, non lascia parlare. Ma chi parlare se ne frega? No, ma se no, le piace attenzione. A lei così, ma chi se ne frega? Parli. Lilly, parli. Parli e se ne fotta di quello. Parli e se ne fotta di quello lì. Che cazzo gliene frega di quello lì con la faccia coperta, parli di Lilly. Io non uso le fruste, però ho sento un'improvvisa voglia di usarla su qualcuno. Su Parenzo. Che farà adesso la classica? Vedi che parla? Vorresti frustare Parenzo? Diciamo. Dai, sì, dai, a me piace switchare. Ti piace switchare? Ma non frusta proprio se potessimo. Ma frusti il master se vai, se gli piace master, frustare. Master è impossibile. Sentite, voi alle ultime europee, prendiamo quello come punto di riferimento, diciamo, basta quello, per chi vanno le vostre simpatie, caro signor master, ad esempio? Saranno affari miei. No, però master, c'è questa domanda. No, mi basta l'unica domanda a cui bisognerebbe rispondere. È fondamentale per capire. Nella testa di Parenzo. Diciamo, questa cosa qui è fondamentale. Alle ultime elezioni per chi ha votato? Questo non sono una sardina. Non, se era questo che non è una sapere. Sardina. Cioè, voti per la Lega, voti per la Lega. Hai simpatie per la Lega? Diciamo che sono un montanelliano, se esistesse ancora Montanelli. Non c'è Montanelli. Diciamo, oggi per l'area della destra comunque, siamo d'accordo? Vedi tu, insomma, se ti dico che sono montanelliano, non ho altre domande. Il master montanelliano. Non ho altre domande. Lo trovo straordinario. Per la destra, allora, ho altre domande. E qualcuno dietro il vetro vuole sapere una cosa, il solito anche porco. La signora è un'elettrice invece di chi la per signora? Per chi vota la signora invece? La non signora si Slave. Parla di politica. Non si parla di politica. La Slave non parla di politica. Parenzo, che cazzo è? Quel porco di Longoni vuole sapere, come nel caso di Marina La Rosa, se la signora Slave ama il pissing da parte del padrone o no. E il porcone di Longoni là dietro, che è stato un po' abituato bene dalla vicenda di Marina La Rosa, da quel momento in poi non fa che farsi le seghe in bagno. Manco di maiale. Signora Slave? Sono stata portata a farlo. Dal padrone? Da Master Sean, sì. Da Master Sean, anche questo. Cioè, ma c'è una cosa che non hai fatto fino adesso, cara schiava? Posso dirlo? Sì, beh certo, qualcosa che desideri fare e che fino adesso non hai mai fatto. Cioè, confesso, dillo in faccia che al tuo padrone. Che desidero fare, no. E che non hai mai fatto? Che non ho mai fatto... Che cosa? No, direi nulla. No, nulla. Vedi, lui la comanda, cioè la guarda e gli dice no, non dire nulla. Cioè, niente. Ma come... A te piace essere... Ma perché non andate al cinema? Ma perché a non te piace essere molto sottomessa? O no? Ti piace essere? Sì. Sì. Liberatorio. È liberatorio. Addirittura liberatorio. Beh. Grazie ragazzi, grazie. Ciao Sean, ciao. Che paese. Master. Però la cosa interessante è che la dominazione non c'entra essere grandi, grossi, che poi lui non è, cioè sì, è un potente, eccetera, ma parte tutto dalla testa. Parte solo ed esclusivamente, non tutti sono in grado di dominare. Specialmente se è vuota di uno dei due funziona meglio, probabilmente. Guarda che non se n'è andato. Vabbè, per cui... che me ne frega a me. Ma perché dovrebbe essere vuota la testa di uno che fa il master? Che cazzo master vuol dire? Ma di uno che si fa dominare, ma cosa cazzo ti fai dominare da cosa? Ma lui da domina, ma perché? Lui in realtà domina, non si va a dominare. Lui ma domina. Se uno ama sessualmente farsi dominare, saranno cazzi suoi. Devo trattarlo come un premio Nobel, devo trattarlo come un ricercatore di biologia che isola il coronavirus. Bravo. Posso trattarlo come un coglione? Posso almeno trattarlo come un coglione? No. Perché magari ci sono ricercatori e biologi e avvocati che si fanno dominare. Certo. Diglielo, Sean, diglielo. Diglielo, andate neanche a Sanremo quelli del coronavirus. A questi eventi, ma non ci penso nemmeno. No, ma non ci penso nemmeno. In generale, tu non ci verrai mai, non penso neanche di fare entrare. Allora? Ma se ci sono persone, gli stupidi fanno una scopata e sono contenti così. Le persone intelligenti invece cercano cose intelligenti, cercano cose che altrove non trovano. Cioè è intelligente, capisci? Farsi soffocare da un estraneo dopo che mi ha legato come un cotechino, poi mi strangola, me lo mette in culo e devo anche ringraziarlo e pagare 130 euro per pigliarlo in culo da uno. Ma che intelligenza c'è? E c'ha ragione, però. Dai. dai, ma no, dai, a parte che state sbagliando obiettivo, perché state parlando delle, state parlando delle slave e non del master. Il master non è che si fa picchiare, è un'altra roba. Comunque, cara Lilli, la realtà è che qua dietro vetro e anche a casa immaginando vogliono vedere un attimo se il master vuole, ti dovresti un po' alzare nell'operazione, come dire, di schiavitù. Cosa fa? Eh no, per farci vedere un po' la situazione qua. Voltati un attimo, se no che siamo un po' maniaci. Eccoci qui. Questa è la Slave Lilli, fidanzata, slave di Sean. Slave di Cosa Sean. Fa? Batte slave nel busto di Mussolini, cosa fa? Ma no, che c'è? È nel busto di Mussolini, cosa batte? È il rumore che fa il busto di Mussolini, cos'è quello? Cioè, ha sculacciato la signora? Sì, gli ma quello è un maleducato, ma come si permette di sculacciare la signora? Avvicinate un attimo al microfono, così sente meglio lo la schiaffeggiatura, eccola ma qua. Ma perché stai facendo schiaffeggiatura? Schiaffeggiava, schiaffeggiava bene. Ecco qua. È lo stesso, ma perché senso ha però sta roba, scusa? Nella tua testa niente, certo. Ma che senso ha? Nella tua testa no, è la schiavitù. Ripetiamolo un attimo. Questo signore vota per la destra italiana. Diciamolo però, solo come informazione. Solo perché le persone si facciano un'opinione nella libertà. Non voglio influenzare nessuno. Avete sentito l'intervista a questo master con un coso in testa. L'altra signora mezza nuda che viene sculacciata. Questi signori votano per la destra. Carenza. Ecco qua. Ma perché di solito lui chiede sempre in questi casi una persona per chi vota, però non c'entra un caso. Sinistra gli bloccava tutto il l'embolo, il discorso. È curioso, ma non hai paura di questa voce? Non hai un po' timore, Davide? Ma non me ne frega. Non hai un po' timore di questa voce? Mi fa venire. Sembra quei pentiti di mafia, presente, quei pentiti lì che ogni tanto parlano. Se ti dicevo che ero di sinistra, cosa ti attaccavi? Ma io chiedo sempre perché voglio avere il quadro delle persone. Ragazzi, oggi non abbiamo parlato di un caso clamoroso che è uscito sulla Rai TV della Basilicata, magari ne parliamo domani, ma ve lo voglio solo accennare. Un signore, un presunto mago, un mago mentalista, uno psicomago, lei com'è che si chiama? Psicomago? Ecco, psicomago. Da aver paura. Sì. Psicomago, si chiama Carlo Fox, a un certo punto ha cominciato a fare un giochetto. Il giochetto è questo, però non gli è riuscito. Era in diretta, credo, registrato, lo so, sul TGR della Basilicata. Vediamo un po' se riuscite a capire. Io ci ho messo, come al solito, la solita mezz'oretta prima di capirlo, solo grazie al signor Poli sono riuscito a ricostruire la cosa. Vai. Lei si definisce psicomago, che cosa vuol dire? Psicomago, perché uso la maggior parte, quando faccio i miei spettacoli, la psiche e il linguaggio del corpo. In che modo? Se io avrei anche il tempo, un minuto ne dimostrerei uno. Va bene. Allora. Cose che si possono fare in TV, Che si possono fare in TV, come no? Va bene. Aspetta. Questo siamo solo all'inizio. Questo eravamo TGR Rai Basilicata. Lo psicomago. Pubblico, naturalmente. Dai, che c'è lo psicomago nel servizio pubblico. Dai, bellissimo, finalmente. Dai, dai. Qui, come vede, abbiamo anche un foglio bianco. Ok. Io gli lascio il pennarello e tutto. Lei deve, allora, in questo caso. Sì. Immaginare che il direttore di una banca. Sì, ci banca. Siamo? Sì. E nella sua mente deve buttare la mano. E nella mano può buttare uno, due, tre, quello che vuole. Ah, nella okay. sua mente. Sì. Perché noi dobbiamo formare un PIN di quattro numeri. Ok. PIN. Quattro cifre che forma un numero. E questa è la premessa. Lei deve scegliere un numero tra 1 e 5. Senti come va avanti, senti. Adesso lei mentalmente butti la mano nella sua mente. Sì. E sa adesso quante dita ha buttato, lo sa solo lei, non io. C'è un problema italiano. Benissimo. Però anche allora in questo caso quello che deve fare adesso, noi dobbiamo formare il primo numero. Lei adesso deve segnare il primo numero, aspetti un attimo. Aspetta. Lei ha in mente i diti che ha buttato nella mano, giusto? Ma è un problema italiano clamoroso. Sì? Aggiungendo uno facciamo il primo numero. Primo numero. Se lo segni, così fatto. Non se lo dimentica. Cioè, pensa a un numero e aggiunge uno al numero che ha pensato, tra 1 e 5. Non è complesso, vai avanti. Adesso a questo numero lei aggiunga 2 per formare il secondo numero. Se lei aveva 5, si aggiunge 2 e diventa. Abbiamo già 2 numeri, giusto? Poi? Primo, secondo, formiamo il terzo numero sottraendone 1 al numero precedente, abbiamo il terzo numero. Poi? Vai. Ci siamo? Sì. Adesso aggiungi 2 nel numero l'ultimo per formare il quarto numero. Fatto. Sì. Fatto. Lei adesso ha un numero completo di 4 cifre. E dai, mago, un numero PIN. Giusto? Okay. No, un numero PIN, un numero. Io non posso mai sapere quello che lei ha scritto, quello che lei ha pensato e quello che lei ha buttato, giusto? Okay. È impossibile. Ma cosa dice? Io gli faccio solo una domanda. Qual è? In questi quattro numeri. C'è per caso, vedo un numero 3? No. Non c'è? No. Ha sbagliato il mago. Non c'è. Hai preso la sculacciata. L'ultimo numero del dei numeri che lei in questi quattro, no, c'è un numero pari, vero? No, no, no, no, neanche. Incredibile. Un cazzo ha fatto, ho sbagliato tutto. Perfetto. 56, 47. Glielo posso dire io, qual è? Sì. 68, 79. Il mio numero era il 5. Più 1, più 2. Io ho sbagliato meno tutto. Meno 1, più 3. Più 1 fa 6. Sì. Beh, certo, questo sì, questo per far capire direttamente che anche per, quando ci si mette un po' lo stress. Lo stress. Allora, questa è l'Italia! Anche questa è l'Italia! TGR Basilicata! Italiani! Italiani! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere. Gaucci, noi siamo di Serie A, Gaucci! Vai a fare il culo, del tuo fratello!